Ancora più saldi a MacArthur Glen la Reggia Designer Outlet. Non lasciarti scappare gli extra sconti sui prezzi outlet dei fashion brand più amati e vivi tutte le emozioni di un'estate di shopping. Vieni a trovarci, MacArthur Glen, Destination Joy. E scopri Art Safari, un'invasione di animali colorati che farà divertire grandi e piccini. Un piccolo seme può dare molto frutto, se mani amorevoli se ne prendono cura. Ma alle volte questo può non bastare. Ogni giorno migliaia di alberi vengono abbattuti, lasciando il nostro pianeta sempre più povero di una risorsa importante per la sua sopravvivenza. Ed è per questo che noi di Runtime Radio abbiamo deciso di sposare la nobile causa di Tridom, una realtà tutta italiana che da anni si batte per riforestare il pianeta con un sistema che fa bene a tutti. Vai sul nostro sito www.runtimeradio.it e accedi da lì alla Varghe-O-Macchia, la nostra piccola foresta su Tridom, in cui potrai comprare un albero da far piantare nel luogo che desideri. Le cooperative locali pianteranno il tuo seme nel rispetto dell'ecosistema, della fauna e aiutando così anche l'economia del luogo. Basta un piccolo gesto per fare la differenza. Fallo assieme a noi. Cerca la Varghe-O-Macchia sul sito www.runtimeradio.it. Grazie. MTV Summer Radio, la trasmissione musicale più irriverente e irrispettosa del network Runtime Radio, condotta da Alex Arcuglia, che sono io, e da tanti amici che ogni tanto si alternano al sottoscritto alla conduzione come ospiti. Lo scopo è quello di promuovere la bella musica, brani non troppo mainstream legati da un filo conduttore, un tema per ogni episodio. MTV Summer Radio è in onda tutti i giorni su runtimeradio.it alle ore 9 e alle ore 15 e spesso e volentieri io sono anche presente in chat per commentare con voi la puntata. Non perdete MTV Summer Radio tutti i giorni alle 9 e alle 15 su runtimeradio.it. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. Cari amici, bentornati a questo nuovo episodio di Quando eravamo futuro. Mi sembrava che me l'ero dimenticato che trasmissione stavamo facendo, ma no, non me lo sono dimenticato. L'ictus non ha colpito ancora, perlomeno per ora, ma potrebbe succedere a momenti, e intanto c'è gente che continua a scrivermi e non lo deve fare, però va bene, non fa niente, tutto a posto. Ah no, qui lo potete fare. Detto questo, bentornati a questa nuova puntata. Questa è una puntata carina, è la mia puntata, sono tutte belle le puntate, però poi ognuno poi è legato, insomma, alle proprie esperienze, ai propri percorsi, e questa ovviamente non fa sicuramente eccezione. Con me Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti. Roberto, non devi scrivere, capito? Ti scrivo, non scrivete qui perché mi entra nel canale, e voi scrivete ok, me le fate bestemmiare, insomma, giustamente. Vabbè, comunque, ciao a tutti. Benvenuto Carlo Sant'Agostino. Ricordiamo che, vabbè, allora siete cretini. Chi indovina chi è? Allora io faccio così, se no poi... Ok, Carlo Sant'Agostino, che torniamo la prossima settimana con la seconda parte. Vai. Raccontaci con archeologia informatica, no, videoludica. Arriviamo, sto invecchiando anch'io. L'ictus qua è comune, è contagioso. Ho fatto pure il vaccino Pfizer, quindi c'ho il 5G. Adesso non so come è stato un gran casino. Vabbè. E torneremo con la puntata, la seconda parte di Ultima, esatto, della serie su Ultima, Garriott e la Origin, che è stata molto molto apprezzata grazie al nostro ospite che avevamo, Andrea Contatto. Sappiamo che è l'autore dei due libri che ha scritto sulla storia di Ultima ed è veramente uno che è uno super esperto, cioè. Ne sa di più di tutti, esatto. Quindi probabilmente anche più di Garriott, secondo me, se vai a Venezia. Sicuro. ricordiamoci venerdì 14 alle ore 21:30 sempre su www.rantemeredio.it. Davide Gatti, buonasera a tutti, eccomi qua. Davide Gatti che continua la sua escalation alla conquista di YouTube. Vogliamo il silver button entro Natale noi, eh. Silver button cos'è? 100.000? Boh, sì, mi pare 100.000, sì, o 10.000. Sì, no, no. Ma so fare il video dove lo modifichi, cioè ci inserisci dentro qualcosa di elettronico. Beh, è stato bello perché ho visto uno youtuber, mi sa che proprio il tizio che segui tu, che ci aveva costruito un basso. Ah, no, un altro tizio che ci aveva costruito un basso con il gold button, quindi attenzione, pure quello... Milione. No, il gold button penso che sia un pochino fuori portata, no, in Italia. Vabbè, no, ci stanno, non ti credi. Ce ne stanno diversi. Parla in inglese. Ce ne sono diversi. Vabbè. No, vabbè. Comunque, vabbè, buonasera a tutti. Buonasera. Io sono un po' in coma. Ieri sera sono stato con degli amici a chiacchierare, sai, chiacchiere, si sono fatte le 4. E stamattina mi sono dovuto svegliare alle 7:30 e il risultato che oggi sono tipo uno zombie. Comunque, perché tu fai lo giovane, fai lo youtuber, conosci gente su Discord e quindi esatto. finisce che non ho più l'età, ragazzi. Esatto. Lo so, ammetto, la prossima volta che mi dici che c'hai sonno per Runtime by Night mi incazzo. Comunque ricordatevi che nel nuovo palinsesto di Runtime Radio Survival Hacking tutti i giorni alle ore 11 o alle ore 17, quindi insomma ragazzi è una cosa importante, sta cambiando molto il palinsesto di Runtime Radio, ma non ci dilunghiamo su questo. Roberto Domaiuolo, ciao a tutti. Io sto provando a scrivere nella chat ma non funziona, cosa hai combinato? No, io ho chiuso Skype proprio sul computer, quindi sono proprio tranquillo. Per me potete scrivere quanto vi pare. No, allora Roberto Domaiuolo che partirà, come abbiamo detto, la prossima settimana con questo nuovo podcast. Io durante questi due giorni finalizzerò tutto quanto il lavoro e vi comunichiamo che domenica sera alle ore 21 saremo live io e Roberto per fare l'introduzione di questo podcast, ascoltarci l'episodio pilota e poi fare i commenti finali e anche i saluti. Da lì in poi il podcast sarà sempre o quasi sempre esclusivamente in podcast, appunto, quindi insomma poi dopo decideremo di volta in volta se fare delle anteprime particolari o roba del genere, però ricordatevi domenica sera alle 21:30, alle 21 scusate, saremo io e Roberto, insomma cheek to cheek facciamo sta cosina tanto caruccia e poi lo annunceremo con un evento Facebook e varie cose. Insomma, detto questo, io direi che sarebbe anche quasi ora di iniziare la puntata, se siete d'accordo, perché questa è una storia un po' particolare, cioè è la storia che riguarda la nostra infanzia e come tutte le storie, ogni storia ha un suo inizio, ha una sua partenza e questa storia inizia così. In un programma che parla prevalentemente di anni 60, 60, 70 e 80, scusate, noi questa volta ci focalizzeremo solo esclusivamente su uno specifico aspetto degli anni 70. Ma prima di parlare di quello aspetto lì, cerchiamo di fare anche un discorso di contorno, perché questa volta parliamo di televisione. La televisione è stata compagna di tanti nelle varie infanzie che abbiamo avuto in vari modi e in vari tempi. Però sicuramente non possiamo, insomma, scusate, ho sbagliato, ok, no, non possiamo negare il fatto che questo oggetto in qualche maniera ha fatto parte già dagli anni 70 in maniera prepotente della nostra vita, soprattutto in determinati orari. Ma prima di arrivare a questo, io vorrei raccontarvi un po' com'era la televisione, perché la televisione negli anni 70 viveva già una grossa trasformazione, ma quando sono cresciuto io mi ricordo prevalentemente c'erano due canali televisivi. Questa cosa poi tra l'altro mi fa ricordare anche la Nuova Zelanda, perché nell'87 in Nuova Zelanda era ancora così, c'era solo Television One e Television Two. Non so per quale ragione loro sono rimasti un po' fossilizzati in quella cosa, che poi penso che nel passare degli anni sia chiaramente evoluta. Però la televisione non era così massivamente presente 24 su 24 come magari è nelle nostre vite attuali. La televisione aveva un inizio e una fine, diciamo così, nei due canali televisivi. Poi c'era uno dei due canali televisivi che durava un po' di meno, uno che durava un po' di più. Però in generale i programmi televisivi iniziavano a tarda mattinata e che si concludavano intorno alla mezzanotte. Detto questo, noi ricordiamo, forse alcuni di noi hanno il ricordo di alcuni momenti della propria giornata che sono scanditi da dei suoni che sono ovviamente rimasti indelebili nella nostra mente, no? Come ad esempio uno di questi è l'intervallo, cioè l'intervallo, sì. L'intervallo che era una cosa un po' particolare, perché c'erano queste diapositive delle pecore nel prato, a volte delle pecore, a volte dei campanili, delle chiese, delle cose con sottoscritto intervallo. E l'intervallo è Monza. Monza, esatto. che la cosa bella è che praticamente questo intervallo serviva per spezzare praticamente delle trasmissioni, evidentemente. Serviva per dare anche, come posso dire, una sorta di respiro anche ai tecnici, perché si sono spostati da uno studio all'altro, magari. E io immagino questa era Rai tutto in diretta. Esatto. Quindi era tutto fatto in una. I mezzi tecnici erano, penso, molto limitati, quindi in qualche modo avevano dei buchi e dovevano in qualche modo risolvere questi problemi. Esatto. Diciamo che anche se tecnicamente nel senso, la televisione non era, era comunque ben realizzata, c'erano comunque delle grandi maestranze, delle professionalità non indifferenti, chiaramente rispetto a quello che è la visione che abbiamo oggi della televisione, stiamo parlando insomma di un lavoro molto più artigianale, no? Da un certo punto di vista, forse artigianale non è il termine appropriato, ma sicuramente più artigianale è comunque il termine, secondo me. Stava nascendo, la stavano creando in quel momento, quindi sì, tra l'altro esisteva un modello da seguire più o meno. Tra l'altro poi c'era anche una questione legata anche alla sperimentazione, no? Però comunque, tornando ai nostri suoni, io mi ricordo l'almanacco del giorno dopo. Che poi l'almanacco del giorno dopo di per sé aveva tante rubriche, cioè aveva varie rubriche. Però la parte iniziale, quella proprio dell'almanacco vero e proprio, era una sorta di propaganda religiosa dove praticamente si parlava solo dei santi il santo del giorno. Sentite questo pezzo. È il 15 agosto. Il sole sorge alle 6:18 e tramonta alle 20:12. La luna si leva a 00:58 e tramonta alle 14:33. Domani la chiesa celebra la festa dell'Assunzione di Maria Santissima e ricorda. E qui sono tutte Marie Santissime che vanno avanti tutto il tempo. In MDB la devi mettere. Esatto. Ma la cosa bella è che praticamente c'è questa voce, senti? Tutta tranquilli, cioè non c'è l'agitazione, il ritmo. Cioè, no, queste voci non si sentono più adesso. Maria Santissima. È come sentire i film doppiati degli anni 50, sì, no? Quelle voci lì. Quelle un po' così, quelle un po' che sono tutte solo alti, niente bassi, no? Nel senso, quelle cose così. E vabbè, ragazzi, però diciamo una cosa, che uno degli elementi che sicuramente tanti della nostra età si ricordano, perché era anche rappresentativo di qualcosa che veramente scandiva la nostra giornata, Carosello. Per chi non incredibile il Carosello. Per chi non conosce il Carosello, era la parte commerciale pubblicitaria della Rai, ma non erano spot così come li conosciamo noi oggi, ma erano tutta una serie di mini cortometraggi. Erano dei corti. Era per dire facciamo pubblicità, ma gli diamo una dignità. Esatto, e poi la racchiudiamo solo in quell'ambito lì. Quindi tu sapevi che la pubblicità era in caro. E si faceva, cioè si voleva guardare la pubblicità. Sì, si attendeva. Era bella. Ed era, oh, è arrivato Carosello, andiamo. Erano bellissimi. Così, ma oltre che erano molto belli, io ci farò una puntata sul Carosello, perché comunque ci sono lì è da dedicarci. Delle perle importanti, tra l'altro. Ma è nato Calimero, è Carmensita, esatto. La linea. La linea del Carosello. Sì, la linea anche. Sì, la linea di Cavandoli, tutte della Lagostina, poi della Lagostina. Come si chiamavano i quella dei Bialetti? La Bialetti, Bialetti. Quella dei televisori, forse la Seleco, che aveva il pianeta di quelli cubotti con gli occhi rotondi, che non mi ricordo come si chiama. Sì. Vabbè, però comunque adesso la puntata. Ci faremo una puntata. Scusa Roberto. Quello dei frati, l'uva amaro. Ah sì, ce n'è l'uomo in ammollo. Però l'uomo in ammollo è sopravvissuto, è diventato quasi. Comunque il carosello è una cosa importante, perché praticamente non soltanto era la parte commerciale della Rai, dove c'erano questi spot pubblicitari che in realtà erano dei cortometraggi, ma con una regia, con una storia, e alla fine c'erano degli slogan o comunque delle cantilene che ti rimanevano comunque impresse, ma era comunque indice, soprattutto per i più piccoli, del fatto che era finita la giornata, perché dopo il carosello si andava a dormire, cioè, e molti dopo a letto dopo il carosello, oppure quando tu eri giù al cortile e sentivi dalle finestre insomma, tu sentivi dalla finestra l'eco del telegiornale, dai vari televisori. Ora di cena. Sapevi che dovevi salire, cioè, quindi alla fine non. Ma io sentivo. Del cortile sentivo mia madre che urlava: "Dale! Dove l'è che sei?" No, invece. Invece no, molte volte invece di sentire le mamme che strillavano, soprattutto io che sono cresciuto in una città come Roma, e dove comunque il mio condominio erano più di 300 famiglie, quindi alla fine c'era questo circondario, questa sorta di piazzetta all'interno di questi palazzi messi a esagono, e praticamente bastava quando c'erano le finestre aperte, soprattutto d'estate. Io mi ricordo proprio questa sensazione che stavi sotto a giocare a pallone, poi a un certo punto e ero alla cena, andavi su e correvi perché c'avevi anche fame. Sì, guarda, uguale a come io ho palazzoni, tra quattro palazzoni col cortile interno, e stessa cosa con i rumori di tutto, non solo il telegiornale, ma le persone che parlavano, che litigavano, che chiacchieravano, cioè, si sentiva di tutto lì, e eravamo tutti abituati. E mi ricordo effettivamente anch'io queste cose che si sentivano, il telegiornale, quello che è, e scandivano, è vero, proprio così. Non mi ricordavo mai così. Quello che oggi è veramente più difficile, secondo me, da comprendere, perché oggi c'è tutta questa continuità, no? C'è questo sempre costante essere in onda 24/24, la cosa che rendeva veramente aliena un po' la televisione d'allora, al di là dei ritmi, era il fatto che a un certo punto le trasmissioni finivano. Eh sì, questo è. Vai Carlo. Questo è un concetto che non hanno proprio le nuove generazioni, quelli più giovani, cioè non hanno proprio il concetto di sapere che la televisione aveva un orario di inizio e un orario di fine. Esatto. Non c'era quel concetto. E io mi ricordo che accendevi magari la televisione, ti capitava quella notte che non dormivi, accendevi la tele e non c'era niente, e, e poi usciva Poltergeist che te si inglobava, perché poi no, si vedeva questa cosa, come si chiama, o il cinescopio della Rai, oppure scala che saliva e scendeva, no? Allora le trasmissioni, come vi ho fatto sentire, come vi ho fatto sentire prima, c'era la sigla di inizio e la sigla di fine, che è questa qua che state sentendo adesso nel sottofondo, e c'erano queste due animazioni di questa antenna che scendeva praticamente in quadratura, che dall'alto scendeva verso il basso e che dal basso scendeva verso l'alto a seconda se era la chiusura o se era l'apertura della Rai, con questo simbolo della televisione italiana che era molto iconico poi alla fine, no? In qualche maniera, ed era la cosa affascinante. E poi veniva il come si chiama il quadro, quello con i colori, con le gocce, cinescopio. Ma a una certa ora staccavano anche quello. Quindi a un certo punto non c'era proprio più segnale. Sì. Cioè, nel senso, a un certo punto. Sì, perché è inutile spendere corrente e tenere accesi i ripetitori. Io mi ricordo che questo, forse però Davide lo sa meglio di me e ce lo può spiegare, mi ricordo che quel monoscopio, cinescopio, adesso non mi ricordo com'è che si chiama qua, monoscopio. Tu vedevi sopra, c'era la scritta che ti indicava da che ripetitore ti arrivava il segnale. Adesso questo no, non me lo ricordo. Mi forse ricordo che era una specie di scritta che poi negli anni ho scoperto che era la sigla del ripetitore dal quale tu stavi prendendo il segnale per capire. Il monoscopio fondamentalmente conteneva tutta una serie di informazioni, sia scritte che di colori, che di cromaticità, di posizionamento per tarare televisore. E cos'era la neve, Davide? Beh, la neve è un disturbo di ricezione, rumore. Sì. La neve... parte è l'eco del Big Bang, non so se lo sapete. Esagerato. In realtà tutti i rumori di fondo delle radiofrequenze in realtà sono il rumore di fondo del Big Bang, e questa è una cosa risaputa, cioè non è che è una cosa detta a cazzarella. Comunque torniamo al nostro discorso, perché poi a voi vi piace proprio andare a per strade impervie che non c'entrano assolutamente niente. Io però voglio porre la vostra attenzione soltanto, ecco, vi chiedo questo minuto e 19 secondi. Noi ci ascoltiamo la famosissima presentatrice La Orso Mando che fa questo annuncio, e che poi è quello che abbiamo utilizzato parzialmente anche per fare quel teaser che avete visto probabilmente su Telegram e su Facebook, e anche su YouTube l'abbiamo messo, correggendo anche l'errore, insomma, che era stato fatto, l'errore di battitura. Ma al di là di quello, questa è diciamo l'annuncio di fine delle trasmissioni, annunciando le trasmissioni del giorno dopo. Però io vi invito ad ascoltarla, perché c'è due cose sulle quali dopo voglio attirare la vostra attenzione, per farvi capire anche veramente quanto è cambiato il mondo da sto punto di vista. I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12.30 con Sapere. Seguirà la rubrica L'italiano brevettato, quindi le previsioni del tempo e il telegiornale delle 13.30. Alle 17 la trasmissione per i più piccini, seguita dal telegiornale del pomeriggio e dalla TV dei ragazzi. Alle 18.45 trasmetteremo concerto finale della terza rassegna dei migliori diplomati dei conservatori di musica italiani. Seguirà il balletto Scacciapensieri, quindi Sapere, un secolo di lotte contadine in Italia. I programmi proseguiranno con il telegiornale Sport, Cronache Italiane, Oggi al Parlamento, il telegiornale della Sera e Carosello. Alle 21, per i servizi speciali del telegiornale a cura di Ezio Zefferi, andrà in onda America Latina, capire un continente, seconda puntata. Seguirà il 20° Ferragosto, terzo episodio della serie Le donne balorde, al termine un continente, l'edizione della seconda del telegiornale. Seguirà il 20° sul secondo programma alle 21.15, dopo il telegiornale, trasmetteremo la prima puntata dello spettacolo Stasera Jerry Lewis. Seguirà il servizio di Ilario Fiore, Arbat, una strada di Mosca, quindi Habitat, programma settimanale di Giulio Macchi. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Seguirà il servizio di Ilario Fiore, Arbat, una strada. Allora, io innanzitutto non so chi di voi sta. Le donne balorde, signore, che cos'è? Parliamo. Ragazzi, qualcuno di voi mi sta facendo rientrare il canale. Allora, io innanzitutto non so chi di voi sta. Le donne balorde. Vabbè, allora ragazzi, scusate, se mi state sentendo, qualcuno di voi sta facendo rientrare il canale del. Io ti sento, ma io ok, non, adesso ragazzi, scusate, se mi state sentendo qualcuno, non so in voi che modo, non so perché facendo rientrare il canale c'è questa cosa assurda. Io ti sento, ma io ok, non, adesso ragazzi, scusate, se mi state sentendo ora senti di ritorno, non so perché facendo rientrare il canale c'è questa cosa si sente proprio noi che parliamo. Ok, adesso scusate, io no, se mi state sentendo ora senti, a noi no perché stiamo ascoltando via Skype, dovremmo sentire la diretta com'è. Si sente proprio noi, io ho mutato per vedere se ero io, ma io no, se mi state sentendo ora senti, a noi no dovremmo sentire la diretta com'è. Si sente proprio noi, io ho mutato per vedere se ero io, ma Lupo so quello che scrive Lupo in chat della diretta. È qualcosa che ha fatto Pizzi. Io ho mutato per vedere se è stato qualche bottone su quel mixer mega galattico. Ok, no, e non so per quale ragione era praticamente partito il scusate, ragazzi, scusate per la diretta, poi cercheremo insomma di risolvere, di ripulirlo. Cioè di ripulirlo, però diciamo che non so per quale ragione il era partito il player della trasmissione sul tablet che sta facendo ovviamente in questo momento la connessione Skype, quindi c'era questo ritorno che tra l'altro tornava e si era creato un loop infinito dal quale non riuscivo proprio. Comunque torniamo a noi. Che figata. Esatto, dai. Torniamo a noi. Allora, la cosa su allora due cose io voglio porre l'attenzione di questo, anzi tre cose, diciamo così. Uno, che le trasmissioni, come abbiamo sentito, iniziavano a mezzogiorno e mezzo sul canale 1 e sul canale 2 le trasmissioni, cioè c'era la metà della roba, cioè nel senso, quindi la durata delle trasmissioni sul secondo canale era nettamente inferiore rispetto al canale 1. Che il canale 1 e il canale 2 venivano chiamati il programma 1 e il programma 2, infatti a un certo punto sul lei dice sul secondo programma. Esatto. Ok, cioè quindi è questo termine programma che negli anni 70 spopolava, cioè lo utilizzavo su qualsiasi cosa praticamente. Ma la cosa meravigliosa è che lei da mezzogiorno a mezzanotte sul Rai 1 ha detto 50.000 programmi. Quindi voi dovete considerare che i programmi avevano, non erano a orari, erano a blocchi. C'era il blocco di mezzogiorno e mezzo, il blocco delle 13, il blocco delle 16, il blocco delle 18, e quindi all'interno di quei contenitori ci infilavano dentro un sacco di roba. E quindi i programmi sì e no che duravano 5-10 minuti al massimo, secondo me, perché se no non ci poteva stare, non ci poteva stare tutta sta roba. Insomma. Però questo è importante perché è proprio un modo di fare televisione. Anche continuativa, ecco perché c'erano gli intervalli, le cose, no? Tutte queste cose un po' particolari, no? Perché loro ovviamente per scadenzare, diciamo, anche a livello di registrazioni, no? Tutte queste cose. Voi immaginate che tutta questa cosa succedeva in tempo reale, cioè fondamentalmente, con le tecnologie che non erano le tecnologie di oggi, che comunque è più gestibile, diciamo, una cosa, anzi ci sono molti automatismi. Lì comunque c'era qualcuno che doveva spingere play nel momento giusto, nella situazione giusta, perché il mondo era analogico, no? Chiaramente, Carlo. Assolutamente sì, infatti è una differenza, come ho detto prima, impensabile, cioè ci sono delle cose, delle situazioni tali per cui i ragazzi di oggi non riescono neanche a immaginare come funzionavano le cose a quel tempo. Come ha detto Davide, eravamo quasi all'inizio, la televisione sì, esisteva già da 15 anni o poco più in Italia. Da quant'è che c'era la TV in Italia? Comunque? Gli anni, penso degli anni 60, no? Quindi forse 50, forse 58, 57, forse non lo so. Adesso le preciso. In ogni caso, eravamo ancora la televisione a colori, sarebbe iniziata lì, da lì a poco. Perché sì, come forse abbiamo detto in qualche altra puntata, noi siamo arrivati tardi con la TV a colori rispetto anche agli altri paesi. E giustamente c'era solo due canali, uno e mezzo, perché poi uno faceva la programmazione, l'altro ne faceva metà e tutto avveniva in diretta, avveniva. Quindi veramente stiamo parlando di un altro mondo completamente diverso. La fruizione della televisione scandiva in quegli anni, comunque, come giustamente hai detto, le nostre giornate, perché essendoci un solo canale, una sola cosa, ed era il mezzo di comunicazione di massa degli italiani. Gli italiani hanno imparato a leggere, a scrivere con la televisione. C'è stata l'alfabetizzazione, come si chiamava quella trasmissione che citano spesso, che ha insegnato a leggere e a scrivere gli italiani in TV, che adesso non mi viene il nome. Beh, però se è la stessa che ha citato prima lei, era l'italiano, se adesso non me lo Vabbè, comunque era, faceva lezioni di italiano in televisione. In televisione si sentiva parlare l'italiano, che a quell'epoca era raro, perché ricordiamo che comunque negli anni 70 il dialetto era ancora onnipresente nelle città italiane. Adesso molto meno di prima, però le persone parlavano prevalentemente dialetto, sì. Quindi sentire invece l'italiano pulito, quello senza accenti, senza inflessioni, arrivava dalla televisione, anzi si sentiva di più a quell'epoca che oggi, dove invece le inflessioni regionali si sentono in TV, in tele, alla radio. Infatti Domenico in chat dice non è mai troppo tardi, in effetti vabbè, ma oggi sì. Si chiamava Non è mai troppo tardi, era il titolo della trasmissione. Non è mai troppo tardi. Comunque, ok. No, il problema era, grazie Domenico. Quindi, in realtà, la grande differenza sta nel fatto che la televisione non aveva solo un'importanza politica, anche iconica, anche statale, no? Era comunque, come posso dire, era la voce, no, la voce dello Stato. Dello Stato, esatto. Però aveva anche una funzione pedagogica, fondamentalmente. Assolutamente. E difficilmente c'erano dei programmi che non avevano comunque uno sfondo. Anche i ragazzi, e quelli, cioè, come posso dire, le storie per ragazzi erano comunque molto ricercate, erano molto elaborate. C'era un lavoro di costruzione autoriale che chiaramente oggi non. Ad essere solo loro a far tele, secondo me sentivano la responsabilità, cioè la responsabilità era molto maggiore rispetto a quanto viviamo adesso e quanto abbiamo vissuto dopo. Esatto. Cioè c'era un senso di responsabilità nel dire noi siamo la comunicazione, quindi la dobbiamo fare in un certo modo. Sì, usiamo consulenti specializzati che ci aiutano a dire le cose giuste nel momento giusto, nel segmento giusto. Quello si vedeva, cioè si perveniva, era un po' la televisione ideale, no? C'era la regolamentazione, insomma. Potrei fare un paragone come lo era internet quando l'internet prima di YouTube, prima internet di cose, quando era bello, l'utopia, no? Tutti bravi, tutti gentili, tutti sì, fighi, sì, quando si usava, poi dopo in realtà la televisione, come internet, come tutto, diventa lo specchio della società, quindi riflette il bene e anche il male di tutto quello che comunque questo episodio, e poi finisco l'introduzione e poi così iniziamo anche nella discussione selvaggia, sentiamo anche Roberto e Davide. Questo episodio vuole essere un ennesimo sguardo un po' alla nostra infanzia, perché questo amarcordismo in realtà poi alla fine ci porta a fare anche un lavoro di ricerca, perché come dice tante volte Carlo quando facciamo le trasmissioni AV e AI, a volte la nostra percezione di un evento, di una situazione è filtrata da quello che è poi il nostro ricordo, la nostra, anche un ricordo legato semplicemente magari a una sensazione, no? In realtà poi dopo, quando tu vai a fare una ricerca, vedi che le cose erano sì in quel modo, però magari insomma approfondisci e ricordi anche meglio, diciamo, o comprendi anche meglio cose che magari comprendi, esatto. Che magari allora non comprendi. E c'era questa questione che io infatti dicevo sempre a Carlo, no, ma facciamo la puntata sulla TV dei ragazzi. In realtà la TV dei ragazzi, per come veniva intesa realmente, che era un contenitore diviso tra l'altro in due, dalle 16.30 alle 17.30, alle 17.30 alle 18.30, con in mezzo un telegiornale molto rapido, era praticamente un qualcosa che è derivativo degli anni 60, dove si faceva una serie di trasmissioni dedicate ai bambini più piccoli e poi una serie di trasmissioni dedicate ai ragazzi più grandi, gli adolescenti, e poi dopo faremo anche magari un elenco. In realtà negli anni 70, nel 75-76, diciamo 76-78, no? Quindi quando io comincio ad avere una consapevolezza di quello che sto vedendo, diciamo, o anche un ricordo di quello che sto vedendo, viene chiamata la TV dei ragazzi quell'area pomeridiana, sempre dalle 16.30 alle 18.30, su per giù, che però non è più veramente il contenitore, così come poi contenitore oggi noi li chiamiamo format, ma allora erano appunto questi blocchi orari dove all'interno c'erano tutte questi segmenti, diciamo così, no? che poi alla fine sono evoluti poi piano piano, infatti poi dopo è nata veramente la TV, diciamo, quella con i programmi veri contenitori, quindi tandem, cose che poi magari veramente anche lì secondo me meriterebbe un'ennesima puntata, magari ritornarci con calma. Però ecco, io ricordo questa cosa del fatto che, e infatti poi me lo sono andato a ricercare, e vedi, poi il fatto di ricercare alla fine ti fa capire quanto le cose te le ricordi un po' in maniera diversa, ovviamente filtrato ovviamente anche dalle tue emozioni, dalle tue percezioni. Però comunque il fatto che noi alle 4:30 avevamo finito di fare i compiti in teoria e in teoria esatto, e c'era la possibilità di vedere comunque la televisione. Ma io questa cosa me la ricordo in particolare d'estate, quando stavo in campagna dai miei nonni e c'era questo grosso televisore in bianco e nero sul quale io vedevo ovviamente questi cartoni animati, ma in particolar modo ce n'erano tantissimi che ai quali ovviamente sono rimasto affezionato, molti magari manco se li, cioè nel senso, a volte se tu ci ripensi alcuni forse non sono neanche conosciuti dai più, insomma, ma è anche da una parte anche ovvio. Però c'era un particolare show, lo chiamiamo show perché oggi lo possiamo chiamare così, che io sono rimasto veramente particolarmente affezionato, perché era anche un'operazione intelligente, perché era comunque interessante, era comico, era divertente per noi ragazzini, era colorato, era tutto quello che vi pare, però allo stesso tempo permetteva anche di risparmiare, perché non dovevano fare i cartoni animati, ed è questo. Super Good! Super Good! Per Gulp! Crash! Vam! Gulp! Bam! Bug! Bang! Gulp! Sick! Splash! Gulp! Fumetti in TV! Fumetti in TV! Squash! Sob! Boss! Gulp! Snap! Sock! Ciao! Che poi, se uno ci pensa un attimo, allora... Super Gulp. Scusa, ti interrompo solo. A colori, per chi aveva la TV a colori. Ah, beh, certo, certo, certo. Certo. Però io poi me lo ricordo comunque a colori, quindi evidentemente nei vari passaggi. È durato parecchio. Questa è la prima sigla, poi ci fu la seconda che faceva i fumetti, te la ricordi? Ah, sì, è vero. Però è interessante, al di là del fatto che questo era un contenitore che conteneva una serie di fumetti animati, diciamo così, no? Cioè, nel senso, non erano fumetti, non erano cartoni animati, però c'era questa cosa, insomma, erano cartoni animati, diciamo, cartoni animati a basso frame rate, ecco. Sì. Chiamiamoli così. Sì, alcuni erano proprio pure statici, quelle là del gruppo TNT, erano veramente dei fumetti, sì sì, Corto Maltese, mi ricordo, però mi pare, però Tenten era un cartone animato proprio, cioè nel senso, quelli là secondo me fanno parte, secondo me non fanno parte del blocco dei Super Gulp, però era comunque, no, c'erano quei prodotti in Italia che erano fatti così, riprendendo il fumetto, poi c'erano le produzioni internazionali che venivano ospitate, che erano cartoni veri e propri. Tenten era francese, mentre gli altri erano tutti di produzione italiana, autoctona. Tra l'altro io se mi ricorderò, perché questo, insomma, se mi ricordo alla fine, quando pubblicherò domani il podcast, tra le note dell'episodio ovviamente voglio mettere una intera puntata di Super Gulp, perché ragazzi, la televisione italiana in quell'epoca non aveva soltanto questa, appunto, funzione ricreativa e pedagogica, ma anche una funzione politica. Cioè, ci sono molti riferimenti all'antifascismo, a tutta una serie di cose, e c'era ovviamente quella di Sturtruppen, che era divertentissima perché era proprio però devi considerare una cosa lì, perché c'è un perché, perché Super Gulp era supervisionato e diretto e praticamente gestito da Bonvi, il mitico Bonvi, e Bonvi era bolognese comunista convinto, quindi devi anche considerare questo, sì, che però emerge dai tuoi, no, ma perché non c'era Iacovitti. No, assolutamente. Guarda, emerge molto questa cosa, ma non soltanto. Cioè, il discorso che secondo me è una cosa veramente interessante è che ci sono alcune. A parte che alcuni di questi, tra virgolette, fumetti animati, ce n'è uno, tra l'altro, diretto anche da Federico Fellini. Appunto, quello che volevo dire prima è che metterò il link di un'intera puntata. Perché se ve lo andate a guardare, e comunque trovate il tempo di guardarvelo, dura un po', cioè un'oretta, e sono tutti piccoli segmenti, tutti piccoli episodi, insomma, quindi alla fine uno se lo può guardare anche un po' per volta, però a parte le maestranze dietro, cioè la qualità anche tecnica, già soltanto la canzone, no? Cioè comunque se ne parlate di un lavoro artistico dietro, cioè anche per fare le cazzate, cioè c'era comunque una laboriosità, una professionalità, una serietà, no? In questo tipo di discorso. E poi perché secondo me è comunque affascinante vedere il modo in cui i ragazzini della nostra epoca si intrattenevano rispetto al modo in cui magari è gestita oggi. E ribadisco, non è una questione di meglio o peggio, è sempre una questione di conoscere un periodo storico, insomma, che è quella la cosa importante. Ecco, io in particolare Super Gulp avevo questa particolare predisposizione perché mi faceva ridere tantissimo il contenitore, più che cioè i tre personaggi, i quattro personaggi, no? Il professore, esatto, il professore, quello scienziato, quello maledetto Carter, il cinese, il cinese a me faceva impazzire. Il cinese a me faceva impazzire, cioè nel senso, ma poi veramente disegnati benissimo. E poi c'è a un certo punto uno dei cartoni animati che è a cura di un certo Benito, non ricordo che, veramente ragazzi, scusate l'ignoranza, qualcuno mi dice, ma come? E a un certo punto quello più alto, lo scemone, come è Benito? No, Benito quello, perché, cioè, qui c'era sempre questo riferimento, questa, cioè, era molto molto molto forte, insomma. Ecco, che cosa vi ricordate voi di... Tanto io leggo pure un po' la chat, perché... Sì, infatti stavo leggendo la chat che diceva Domenico, vi ricordate un cartone animato che si chiamava Gustavo, di produzione cecoslovacca, tristissimo? Sì. Sì, me lo ricordo. Allora, di produzione cecoslovacca, se non ungherese, no, forse più che ungherese, forse ungherese, non mi ricordo. C'era la famiglia Musil. Musil, non so se voi ve lo ricordate. Io questa cosa l'ho cercato per tantissimo tempo, perché io questo cartone animato me lo ricordavo benissimo. Famiglia Musil. Ma non mi ricordavo come si chiamava. E ogni volta che chiedevo a qualcuno, ragazzi, ma ve lo ricordate? Bla bla bla bla bla. Dovevi chiedere a me. Infatti, gli unici due che se lo ricordavano era Sant'Agostino e Marco Gualdi, che insomma, alla fine, perché ci hanno condivido la vecchiezza dentro. No, però è veramente. Era figo quel cartone animato. Cioè, era bellissimo, a me piaceva tantissimo. Poi aveva delle trovate eccezionali. Quando lui prendeva quel razzo, andava nello spazio, trovava mondi. Mi ricordo in particolare una puntata che andava nel mondo bidimensionale. Io quella mi è rimasta impressa. Un pianeta che era piatto, non aveva la terza dimensione. Esatto. Flatlandia. Gli abitanti non conoscevano la terza dimensione, quindi non, se c'era una linea per terra, loro non la passavano. No? Sì. No, ma era l'Atlantia. Ma quello, guarda, quell'episodio lì, io ce l'ho avuto in mente per 30 anni e più, perché comunque mi era rimasto impresso. Cioè, era geniale, che poi dopo lui riesce anche a farlo diventare tridimensionale. Lui non si è capace dal tizio, no? Cioè il vecchio, no? Che in realtà lui era un rivoluzionario nel suo pianeta, no? Perché voleva sconfinare, no? Dalle linee, no? Però poi quando lui l'ha portato nella terza dimensione era troppo per lui, no? Ci sono certe ci sono certe realtà che ancora non siamo pronti ad accettare. Delle cose meravigliose, ragazzi. Cioè, un cartone animato bellissimo. Allora, ragazzi, questo qui è tratto da un vecchissimo romanzo stupendo di Abbott che si chiama Flatlandia, che se non avete letto leggete, perché è un peccato mortale. E comunque fu reso benissimo, era davvero molto molto bello, trasposto bene, assolutamente. Una cosa che secondo me dobbiamo sottolineare, che abbiamo già sottolineato in altre puntate, ma va di nuovo secondo me ribadita, è che per noi ragazzini la televisione non era tutta la giornata. Anzi, era una parte relativamente breve, almeno di solito. Un'ora, due ore al massimo. Sì. Sì, perché noi, almeno io vivevo fuori, fra andare a scuola, per il resto sì, si faceva i compiti, quello che si faceva, dopodiché si tornava con gli amici. Per cui parlo degli anni 70, negli anni 80 poi la cosa è cambiata. E sarebbe interessante capire se la televisione è cambiata perché è cambiata la nostra vita, o se la nostra vita è cambiata perché è cambiata la televisione. Questo poi, senza essere troppo marzulliano, è nato prima l'uovo o la gallina. Esatto. E un'altra cosa che voglio ribadire è la qualità comunque di molti di questi programmi, che solo che non vengono più ripresi, quello sulla lingua italiana. L'unico caso che mi ricordo che è stato ripreso fu il bellissimo show degli anni 80 che si chiamava Parola Mia, non so se ve lo ricordate, dove si parlava dell'italiano finalmente, facendo delle gare fra studenti che facevano composizioni in italiano, cose simili. Stile americano, quelle cose americane, sì. Per cui, cioè, in America era molto diffusa la gara tra fazioni di studenti che fra di loro giocavano con una sorta di gioco sulla lingua, e poi stato trasposto anche in Italia in qualche modo, anche perché la nostra come si dice, la nostra televisione credo che fosse un riflesso di quella americana che era nata 20 anni prima, quindi sì. Noi guardavamo cosa facevano loro e cercavamo di farlo a casa nostra con i nostri mezzi, con i nostri sistemi, ma penso che guardavamo in America, penso. Sì, adesso io non ho visto quella vecchia che abbiamo citato prima, ho visto Parola Mia, che c'era il professor Beccaria, che era secondo me bravissimo, a me piaceva tantissimo quella trasmissione, e infatti non hanno mai più rifatto nulla del genere. Comunque è quello che secondo me è interessante. Scusa Roberto, salutiamo anche Sono Io in chat e ci sta insultando tra l'altro. Va bene. E salutiamo anche Al 9000 che ci sta ascoltando dal lavoro. Ciao Al, grazie di ascoltarci. Prego. No, e quindi la cosa importante, quindi va inserita, altrimenti non si comprende. Noi la TV da ragazzini la guardavamo un'ora e mezza, sì, e basta. Sì, un'ora e mezza era già tanto, sì. E quindi anche ovviamente c'era un'attenzione molto alta, perché era una cosa relativamente piccola, cosa radicalmente cambiata negli anni 80, almeno per me, dove il consumo di televisione è cresciuto tantissimo. Ci vedi? Esatto. E poi c'è stato il boom delle TV private che ha cambiato tutto, perché certo. Noi stiamo parlando in un mondo dove esisteva solo la TV di Stato, la TV, e quindi c'era quello che dicevo all'inizio, questo senso della responsabilità della voce dello Stato verso lo Stato stesso, cioè noi. Quindi era proprio un concetto molto diverso. Poi è entrato. C'era la radio, però per noi chiaramente era meno attrattiva per ovvi motivi, per i ragazzini. Io sulla radio ce la farò un episodio, perché in realtà io invece ho proprio un legame molto particolare, quindi, e ci sono anche magari degli aneddoti, e alla fine vi scoprirete che ci sono tante cose che conoscete anche voi sicuramente, per quanto poi alla assolutamente fine... io la radio mi ricordo, io riesco a ricordarmi, per quanto fossi piccolo, la nascita delle radio private, me la ricordo, cioè quando hanno iniziato a trasmettere Radio Milano International e le altre radio, rispetto a Rai 1, Radio 1, Radio 2, Radio 3, insomma. Quelle sì, ma eravamo già un pochino più grandi quando ero, non mi ricordo però che anni erano, credo primi anni 80, no, forse qualcosa prima, Radio Milano International, sì, ma più o meno anni 80, dai, direi. No, Radio Milano International l'abbiamo festeggiato qualche settimana fa, un paio di mesi fa, un mese fa mi pare. Ed era sì, della aspettate, perché mica mi ricordo, però mi pare che aveva fatto 30 anni, se non sbaglio, no, forse di più anche. Di più, 40. Sì, mi pare che era del 75, qualcosa del genere. Ma dopo me lo vado a vedere, perché ci abbiamo fatto pure un episodio, quindi insomma. Ci abbiamo vissuto noi in quegli anni, e questo dobbiamo ritenerci fortunati. Io lo dico sempre, noi dobbiamo ritenerci fortunati, perché in realtà la nostra generazione, quella nata in quegli anni lì, negli anni 70, ha vissuto in prima persona un sacco di rivoluzioni, non solo quella informatica che citiamo sempre, quella del videogioco che continuiamo a citare, ma anche nel campo della comunicazione, della televisione, della radio, del telefono, della tutta una serie di cose che hanno cambiato completamente il nostro mondo, e le abbiamo viste noi per primi, cioè non c'erano prima di noi. Prima di noi non c'era niente, poi dopo... Certo, la telematica negli anni 80. Noi siamo come il Big Bang, fondamentalmente. Big Jim. No. Vai, dopo la... Dicevo, io ricordo, parlando di radio, perché sono leggermente, appena un po' più vecchio di voi, quando andavo da mio zio in campagna, lui aveva ancora questa grande radio a valvole gigantesca in salotto, e adesso magari molti che si ascolteranno non hanno ben presente, ma queste radio avevano la scala parlante, che sarebbe la scala quella dove c'è il pistolino che si muove quando girate la manopola per sintonizzare la frequenza, no? Nelle vecchie radio era già preimpostato su determinati punti dei nomi con scritto Radio Vaticana, che ne so, Radio Austria, Germania, Svizzera. Radio Maria. Ma non lo so se c'era già i tempi. C'era Radio Vaticana, Radio Maria, la stessa cosa. Sì, Radio Australopiteco stava per dire comunque. C'erano i nomi delle città europee e tu ti posizionavi lì sopra e io mi ricordo quando ero piccolo che si andava onde corte, onde medie, l'FM, non so neanche se c'era, e riuscivo dal casa del mio zio in certe stazioni dove c'era scritto, che ne so, Germania piuttosto che adesso Monaco, quasi nessuno andava, però molte di queste c'erano delle radio che parlavano in lingua straniera e si sentiva, cioè tu ti posizionavi su Londra e sentivi in inglese, no? Piuttosto che andavi su Monaco e sentivi in tedesco. Quindi cioè, c'era le scale che cioè questa scala con tutti i paesi scritti sopra e rimanevo affascinato nel sapere che potevi sentire una roba di un altro paese girando sta manopola e lì è nato, penso, la passione per molti radioamatori, cioè di sapere che con un mezzo giusto era possibile interfacciarsi al mondo, come dire, era come dire, vabbè, arrivo io che so Ermannaia come al solito, perché è incredibile riuscire a parlare di radio amatori quando stai a fare la puntata sulla TV dei ragazzi, è incredibile, è una cosa che io non mi capaciterò mai, però io voglio bene lo stesso. Comunque io mi voglio ricordare alcune cose. Allora ragazzi, qui l'avete scritto voi la linea. Però sì. Prima dopo ne parla Roberto, perché so che lui è particolarmente infervorato su questa cosa. Però devo dire la verità: in una vita tridimensionale, a me questa cosa della bidimensionalità, quando ero ragazzino, mi intrippava. Allora, voi dovete capire che io purtroppo, quando ero ragazzino e sviluppavo un po' la mia concezione dell'universo, facevo dei processi tutti miei particolari. E siccome farò una puntata, la mia prossima puntata sarà sulla pellicola, cioè nel senso sul Super 8, sulla pellicola, sul modo in cui noi registravamo i nostri ricordi, ma in particolare sulla pellicola, quindi sul mondo Kodak, tutte queste cose che alla fine comunque hanno fatto parte di quel tipo di memorizzazione, se vogliamo chiamarla così. Però quando io guardavo la pellicola, ed è una cosa che facevo spesso perché io sono cresciuto in mezzo alle pellicole, e guardavo praticamente i fotogrammi. E quando c'è il cambio di scena, quindi non quando c'è il cambio di fotogramma, quindi c'è un fotogramma di una scena e poi c'è il fotogramma della scena dopo, io mi domandavo: ma che ci sta in mezzo? Cosa porta da una scena ad un'altra? Che c'è nell'inter fotogramma? Che cosa c'è sta dentro? Cioè, facevo delle domande. Niente! Esatto, bravo, lo so. Però è una cosa che io da ragazzino mi domandavo. Cioè, nel senso, è la stessa cosa della linea. Io quando vedevo i cartoni animati della linea, che poi, vabbè, come la titina, vabbè, insomma, comunque. E io mi domandavo, cioè, che questo viveva in un mondo, cioè, viveva in un mondo bidimensionale. C'era un particolare episodio dove gli si spezza praticamente la linea, cioè dove camminava, no? E quindi finisce di sotto, no? Cioè, quindi c'è l'idea di questo mondo iperbidimensionale. A me mi intrippava, raga, cioè, stavo lì e guardavo e cercavo di capire come può funzionare una cosa del genere. Cioè, e mi piaceva tantissimo. Una cosa che... Roberto, vuoi dire qualcosa sulla linea? Guarda, è una cosa che mi ha sempre colpito, perché io lo trovo poetico addirittura. È bellissimo. C'è Cavandoli, che è un compatriota, diciamo, dell'attuale posizione di Carlo, perché credo che sia della provincia di Brescia, se non ricordo male. Yes. Infatti qua abbiamo fatto l'evento al museo in commemorazione della linea, al museo dell'industria del lavoro di Brescia, al Musil. La cosa che a me piace è un po' come è l'immaginazione importante. Per farlo devi essere bravo, perché alla fine la linea non parla, borbotta. Parla in milanese. Quasi bestemmia. Parla in dialetto, è un gramlo basato sul dialetto milanese. Se tu stai attento, sì, senti delle parole in milanese. Sì, come sonorità sicuro, cioè. No, no, ma anche delle parole. C'è una scena dove ci sono delle parole, ma un uccellino e dice l'uselina, esatto. Poi la macchina, la macchina, la gomma. Ci sono discorsi, voglio dire, alla fine. No. Tanto è vero, gramlo, come si usa dire, tanto è vero che ha avuto successo praticamente in tutto il mondo, non solo ma soprattutto nell'est Europa, è un successo mondiale la linea, perché è proprio una cosa immediata, immaginaria di questo omino disegnato. Sì. Il supremo minimalismo, che come dice, esatto, voi pensate proprio una semplicità estrema, eppure un impatto. No, ma secondo me la poesia sta tutta lì, cioè nel senso, perché poi il resto, l'interazione il resto ce lo metti te, no? Come dicevamo tante volte con Bonaventura Di Bello, quando raccontiamo del fatto delle avventure testuali, cioè alla fine la grafica ce la mettevi te nel gioco, cioè nel senso ce la metteva la tua mente, no? Quindi alla fine è questo. E la stessa cosa in un qualsiasi tipo di opera minimalista, che poi alla fine tu sei concentrato sulla situazione, sulla poesia, sul racconto, quindi alla fine non c'è niente che ti distrae. Poi lì in particolare, perché non c'erano neanche i cioè dice, sai, è bidimensionale, però ci sono i gli alberi, le cose, zero. Cioè la linea. Il personaggio e qualche oggetto decorredo quando serviva, che poi la mano che lo scrive, bravo, hai ragione, bravo, hai ragione. Sì, appunto, sembra quasi, non so, Fontana che attraversa col taglio, che attraversa il medium, ma adesso senza fare i finti intellettuali. Questa semplicità, però, alcuni di questi sono buffi, fanno davvero ridere. Ha fatto anche Eros Linea, quindi ha fatto la versione sexy tra virgolette della linea con lo sfondo rosso anziché blu, esatto. E quindi con nulla lui è riuscito, però in maniera vivida, a far passare questi concetti, per cui è una cosa che a me è sempre colpito moltissimo. Bene, poi andando avanti c'era dopo Gigio, cosa mi dice mai? Era fantastico. Mamma mia, mia moglie lo odia, non so che trauma ha avuto, ma lo odia Topo Gigio. Ma perché? No, dai, povero Topo. Cioè, odia. Ma non lo so. Ossia, non dopo lo so, poi era... quando lo vede lo odia. Sì, dopo un po' era fastidioso, nel senso 3 minuti dai Topo Gigio. Ma cosa mi dice mai? Anch'io, allora, io l'ho visto sicuramente migliaia di volte, però se adesso penso a Topo Gigio, anche a me non è che mi sia proprio tirato le balle. Simpatico. E dopo Gigio pensa che è diventato talmente famoso, non so se lo sapete, ma ci fu anche, ne fecero anche una serie TV a cartoni animati prodotta dalla Toei in Giappone, dove Topo Gigio era un topo spaziale, in realtà era un alieno. Me la ricordo sta cosa, sì, me la ricordo, sì, una merda comunque, complimenti. Una merda, sì, bravo. Esatto. Una merda. Comunque, ragazzi, posso dire una cosa sui cartoni animati in generale di quell'epoca, perché poi adesso introdurremo anche gli altri, quindi parleremo di tutta una serie di produzioni. Forse questa cosa l'ho già accennata nella puntata quella dei robot, però non l'ho spiegata bene, è la differenza che noi non percepivamo, cioè la percepivamo ma non la capivamo all'epoca, della differenza di quando ci propinavano le produzioni di cartoni animati che arrivavano dal cinema, dei corti che arrivavano dal cinema, dei cartoni animati, ed era tantissimo che noi ci siamo presi negli anni 70 tutti i corti animati di Tex Avery e degli altri grandi autori della MGM, della Universal, eccetera, di produzioni cinematografiche che partivano dagli anni 40, se non dagli anni 30, se contavamo anche quelli di Félix Decate, di Betty Boop in bianco e nero, e ce li siamo sorbiti nei vari contenitori delle TV per ragazzi, ma erano produzioni cinematografiche, quindi con una qualità che era molto molto più alta delle produzioni televisive che vedevamo. Quindi noi vedevamo magari due cartoni animati e dicevamo, ah, ma guarda, quelli di non so, di Daffy Duck o di Gatto Silvestro sono molto più belli di non so, Yogi oppure altri cartoni quelli animati di Bozzetto, ma perché non capivamo la differenza tra la produzione cinematografica, quindi con molto più costi, molto più alti, molti più frame, budget più alti, e budget più alto, quindi dava una fluidità maggiore, una ricerca maggiore, una qualità visiva maggiore, anche perché era fatta per la pellicola cinematografica, quindi anche col formato cinematografico, certo. Che tu ben sai, Simone ci può spiegare poi bene la differenza, mentre il formato televisivo era molto più povero, sia come risoluzione, sia come numero di fotogrammi, sia come definizione stessa Sì, anche se negli anni 70 in particolare ancora la maggior parte delle produzioni, anche televisive, si giravano comunque in pellicola. E questo faceva la differenza. Sì. Oggi tu lo vedi. Tra l'altro, se non ci avete mai, se andate un attimo indietro con la memoria, se vi dovesse capitare di ricordarvi gli sceneggiati Rai, che gli interni avevano una, come posso dire, un look sostanzialmente diverso rispetto agli esterni. Questo perché? Perché negli interni venivano registrati in video, quindi con le videocamere e tutto quanto. E gli esterni venivano girati in pellicola e si vedeva la differenza, chiaramente si vedeva nel frame rate. Certo, si vedeva, sì. Chiaramente si vedeva. Sì, era molto più definito l'esterno, è vero. Chiaramente, ma poi c'erano le telecamere negli anni 60 e 70, avevano una marea di problemi sui flare, certo. Sull'illuminazione, soprattutto sulla luce diretta in particolare. Se vi ricordate, quando vedevate, che ne so, gli artisti che suonavano, a volte quando muovendo la chitarra magari ci andava un faro e il riflesso andava sulla telecamera, sparava. E c'era quell'effetto di persistenza. Esatto, c'era la persistenza che rimaneva. E quindi tu queste differenze le vedevi sulla pellicola, che era un formato oramai stramaturo e sicuramente qualitativamente superiore. Chiaramente quei qualsiasi sceneggiato fosse, costava, proprio perché alla fine purtroppo c'aveva questa parte di interventi che erano inevitabilmente fatti in pellicola, perché evidentemente all'esterno queste telecamere non ci potevano andare, non c'avevano sistemi di alimentazione, se non smuovendo ovviamente tutto quell'ambaradam che si smuove di solito quando c'è il cinema di mezzo, no? Quindi i camion, i gruppi elettrogeni e cazzi e mazzi, insomma. Ecco, questa è una cosa. Ecco, comunque questo adesso stai andando tu fuori tema, perché ce lo dici a noi prima, poi anche te. No, in realtà non è così, cioè non è così fuori tema, perché nello specifico, da quello che dici tu, comunque la televisione faceva un grand'uso della pellicola anche quando erano prodotti dedicati alla televisione, cioè i cartoni animati che noi vedevamo all'epoca erano in pellicola, non erano mica in video, cioè. Sì, ma io stavo indicando la differenza qualitativa tra quelli prodotti e pensati per la TV da quelli prodotti e pensati per voi vi ricordate sicuramente che quando guardavamo i cartoni di Daffy Duck o di Willy Coyote, di Beep Beep, dicevamo che figata di cartoni, sono bellissimi. Sì, sì. Perché? Ma perché quelle erano produzioni cinematografiche, non erano produzioni, erano produzioni precedenti che risalivano dagli anni 40-50, che erano state fatte per metterle al cinema prima del film che andavi a vedere. Tu andavi a vedere Colossal, esatto, le Merry Melody. Hai ragione, è così. E questo noi ce le prendevamo in televisione come se fossero dei cartoni animati qualunque, ma in realtà, infatti, se guardavi le produzioni invece di Hanna-Barbera, che erano specifiche per la TV, e dall'orso Yogi a come si chiamava il cane lì, l'alano gigante, che non mi ricordo, Scooby-Doo. Tutti gli altri, lì c'era una tecnica di produzione basata proprio sul risparmio, chiaramente, cioè che comunque muovevi il minimo indispensabile, cioè fondamentalmente. Bravo. Vabbè, comunque Tex Avery l'ho citato prima, ma lo voglio ricordare perché è un grande. Io le produzioni di Tex Avery sono fantastiche. Tex Avery, se non lo sapete, è quello che ha inventato tantissime cose, da Daffy Duck fino a quella cosa iconica che tutti ci ricordiamo, del famoso lupo che fischia alla ragazza quando entra nel famoso cartone animato del lupo che si eccita con la, che poi è stata ripresa anche in Roger Rabbit, esatto. Sì, è stata ripresa lì, recitata più volte in Roger Rabbit. Vabbè, comunque in chat Angela ci fa sapere che c'è il pupazzo di Topo Gigio. Io questa penso che ma ce l'avevo anch'io probabilmente, sì. Comunque andando a fare faccio un attimo questo breve elenco delle cose che mi ricordo io, poi dopo andate a ruota libera, perché io mi ricordo, parlando proprio dei sceneggiati, alla fine Marcellino Panevino, puoi ricordare? Terribile, con tutte le repliche che l'hanno fatto, poi l'hanno fatto 8 miliardi di volte in tele. Rintintin, chi se lo ricorda Rintintin? Bello Rintintin, cioè. Sì, dai. Lessi, parte della triade Rintintin, Lessi e Furia. E Furia, chiaramente, Rina. Esatto. Però c'era anche Zorro quello in bianco e nero. Ricordate Zorro quello in bianco e nero? Sì. Cioè, grande. E Zorro, guarda, non vorrei ricollegarmi a Zorro. Zorro è stato, penso, quello che ha ai bambini, io mi ricordo tutti i miei amici, chiunque, che sono sicuro anche voi, che il primo videotto proiettore che avete avuto, Super 8. Quando lo portavate via dal Super 8, quando lo portavate via dal negozio, c'era Zorro sempre. Zorro. E sempre la pellicolina, sì, sì, piccolina, vero, di due minuti durava. Così durava? Come il travestimento da carnevale. Ecco, bravo, sì, bravo, bravo, esatto, Zorro. Esatto, con i baffi fatti con la matita, chiaramente. Ecco, eravamo tutti affascinati da Zorro, sebbene Zorro poi, se lo ricontestualizzi oggi, era una porcata poi fondamentalmente. Cioè, vabbè, vabbè, non è neanche vero. Era un nostro supereroe, era supereroe, sì, di noi altri degli anni 60. Ah, era il Batman messicano poi fondamentalmente, perché se vai a vedere, sì, lui era, sì, il riccone, sì, che però poi si travestiva e risolveva le magagne, insomma. Sì, e lì la solita cosa che metti una mascherina che ti copre mezzo occhio e basta, sei un altro, sei un altro, sei assolutamente un altro, sì, sì. Ma vedi, però la mascherina già tanto, il problema era più Superman, che in realtà cambiava solo i capelli, cioè fondamentalmente. No, io devo dire che una cosa, però, Furia è stato il mio primo 45 giri in assoluto. Non so se è stato uno anche del vostro caso. Sai che mi sa che... Che beve solo caffè? Sì, sì, Furia Cavallo del West che beve solo caffè. Sì, era Mal. Era di Mal. Mal. Furia Cavallo del West, che si è sentito male. C'era anche, aspetta, Radici dello schiavo, non so se ve lo ricordate. No, vabbè, ma certo, quello non era per ragazzi, dai, quello non era. No, esatto. Anche se Radici lo ricordiamo per l'attore che poi ha fatto Geordi in Star Trek Next Generation, quindi. Ah sì? Non lo sapevate? No. Lo sapevate? L'attore di Radici è quello che ha fatto poi Geordi, il nero, quello cieco, in Next Generation. Ma dai! Caschiamo dal pelo. Vedi che si impara, mamma mia, che ragazzi, ignoranti, che scarsi che siamo. Sta cosa mi hai sconvolto, l'anima quasi. Serata. Adesso dovrò andare a fare una verifica però. Vai, verifica. Faremo sempre una... verificare le fonti, poi tranquillo, mi rimangio tutto se ho sbagliato, non c'è problema. Vabbè, sì, no, che sei già sovrappeso, sei già. Mi piace mangiare sempre. Vabbè. E quindi di fieno. È solo un caffè. Ma che porcata era sta canzone? No, lascia stare. Però comunque negli anni 60 la moda delle canzoni in italiano con l'accento americano era troppo. Sì, sì, ma in realtà se voi vi ricordate, andavano molto. Vi ricordate Polanca e Nils Daga che cantavano le canzoni in italiano? Ah, Sarah mi buccia. No, quello no, quello è Cosoli, come si chiama? È un altro. Sì, sei andato a controllare Davide o no allora? No, adesso stavo... Quello è andato avanti per decenni, dai, Eter Parisi, il nano ghiacciato, Dan Peterson, cioè... Per me, numero uno! Numero uno! Mio papà diceva... Teliton. Esatto. Il Teliton. No, questo lo avessimo già avanti, no, parliamo degli anni... Cioè, c'è stato niente, un anno, sì, negli anni 60, la musica, gli americani che cantavano in italiano tutto storpiato con l'accento americano, erano famosi e sentivano un sacco di canzoni e penso che Furia in qualche modo abbia ricalcato un po' quella strada, ecco. Va bene, chi è? Aspetta, chi è che scrive con Pippo e Super Pippo anche senza maschera? Ah vabbè, ma perché erano quelli dei Disney, sì. Che mangiava le noccioline per diventare, esatto, ci citano Pippi Calzelunghe, è vero che vero fondamentale Pippi Calzelunghe c'era nel io purtroppo sapete, una volta feci una battuta su Pippi Calzelunghe, da adesso in poi mi è rovinata per sempre per me Pippi Calzelunghe. Cos'è con la Barbie? No, anche peggio quindi. Oddio, allora io lasciamo stare, perché sennò poi dopo lascia stare, perché ormai sei già mezzo segnato. No, ma io sono segnato da una vita per tantissimi altre cose, quindi figurate, queste sono bazzeggole per me, insomma, quindi... Però ecco, diciamo, sì, Pippi Calzelunghe. Avevi la bambola di Pippi Calzelunghe per caso? Sì, no, poi ve lo dico fuori onda. Va bene. È qualcosa a che vedere con il fatto che alzava il cavallo? Vabbè, ma allora... Grisù c'era? No, ma Grisù è anche quello dopo, secondo me, cioè non è Grisù dobbiamo citarlo nella puntata di Carosello, perché anche lui nasce lì. anche Grisù. Ah, ecco, Grisù nasce lì, vedi, questo è interessante. Ma so che era una Galiniera. Io volevo solo farci fare una cosa. Voglio fare il pompiere, ricordate, voglio fare il pompiere. Esatto, sì, il pompiere, E volevo solo ricordare una cosa che un po' magari ci è sfuggita, ritornando solo un attimo indietro nel tempo, che era come si viveva questo momento di visione di queste trasmissioni, che era tipo la TV dei ragazzi, nel senso che dove ero io non avevamo una TV per casa, cioè non ce n'era uno, non tutti avevano la televisione. Io parlo di anni magari un po', diciamo, fine anni 60, primi anni 70. Capitava che nel mio palazzo ce l'avessero in 10 la televisione. Che bello, cos'è partito? Che bello, cos'è che è partito? Che bello, cos'è? E Lessi. Vabbè, dai, scusate, vai, scusa Robesi, Davide. Stavo dicendo che non tutti avevano una televisione e ci si ritrovava un giorno a casa mia, un giorno a casa di qualcun altro, e ci si ritrovava magari 7-8 ragazzini a casa di qualcuno, seduti per terra davanti a questo televisorone in bianco e nero, e guardavamo la TV e la mamma di quel momento ci preparava un qualcosa, un panino, il merendone, la merendina, attenzione, quello che c'era. Attenzione, la mamma del mio migliore amico. Beh, insomma, la mamma che ospitava in quel momento i 7-8 ragazzini, che era una cosa normale, cioè proprio non era una cosa che due coglioni arrivano sti qua, cioè si sapeva che, cioè, siccome loro avevano la televisione, e allora gli faceva piacere far venire in posto i ragazzini che invadevano un attimo la casa, e noi ci mettavamo lì seduti, poi arrivava il paninino, il panozzo, quello che c'era, insomma, in quel momento ci guardavamo la nostra oretta e poi ripartivamo e andavamo in giardino, un giorno a casa mia, un giorno a casa di un altro, di quelli che avevano la televisione, perché non ce l'avevano tutti, eh. Poi dopo, vabbè, è diventato un elettrodomestico a casa di tutti, ma a quell'epoca... Beh sì, tu sei un po' più anzianotto di noi, no? Quello è chiaro, insomma. Beh, ma guarda, mia moglie non ce l'aveva, non avevano la televisione, andavano al bar a vederla, e mezzo paese andava al bar a vederla, e mia moglie è del 72, non stiamo parlando, noi che eravamo in città eravamo un po' più avanti tra virgolette, quindi la televisione ce l'avevamo già in casa. Comunque, anche se comunque, ragazzi, popolare, quindi non è che c'era la ricchezza, anche se da dire che la televisione comunque era il caminetto della, perché c'è una, ce n'era comunque in casa, non è che ce n'era sei, quindi tutti si, anche in casa, in famiglia, comunque io, mio papà, mio fratello, mia mamma, eravamo tutti a vedere la stessa cosa. Sì, e noi piccolini, quello, bambini, eravamo i telecomandi. Più o meno, sì, andavamo a cambiare il canale. Sì. Esatto, facevamo i telecomandi umani. Vai a girare tra 1, 2, 3, perché si vedeva la Svizzera, Monte Carlo, il primo, secondo. Comunque, tra l'altro, cioè, tra i cartoni animati che io vedevo, per esempio, c'era Speedy Gonzales, non so se voi ricordate. Speedy Gonzales era figo, perché quando correva faceva tutto il fumo, no? Tutta la polvere praticamente. E quando io stavo ogni tanto era con Gatto Silvestro, no? O con... Sì, sì, anche era della Warner, quindi si incontrava con Daffy Duck e con Gatto Silvestro. Anche. Forse più c'era con Daffy Duck, me lo ricordo, io, insomma, in effetti. Sì. Comunque la cosa bella è che lui faceva tutta sta polvere quando correva, perché era velocissimo. E allora, quando io da bambino stavo in un campo dove c'era della terra, roba del genere, praticamente io facevo Speedy Gonzales, cioè muovevo i piedi velocemente, alzavo tutta sta polvere, la gente mi odiava praticamente per questo. Però abbiamo sempre, per la funzione pedagogica, abbiamo imparato una volta anche a mangiare gli spinaci, no? Perché poi assolutamente sì, cioè, sì, era un altro da città, sempre produzione, anche questo cinematografica, perché andava anche questo al cinema come pubblicità degli spinaci. È iniziato bello, okay. Popeye the Sailor Man, Popeye, che poi ho scoperto per caso che il film di Popeye che fece coso era vecchissimo alla fine, io me lo ricordavo recente, invece era il film che fece come si chiama quello che è morto, quello dell'attimo fuggente. Ah, Robbie Williams. Robbie Williams fece il film di Popeye, dove lui faceva Popeye. Ma cosa è vecchissimo quel film, è dell'80, è proprio vecchio, vecchio, vecchio. Io lo pensavo molto più recente, invece è vecchio. Ma come lo ricordavo, se devo dire la verità, mi sa che non l'ho visto. È stato uno dei primi film di Robin Williams, lui faceva Popeye. Sì. Non te lo guardare, che non è granché, però sì. Okay. No, grazie a Dio me lo so perso, penso. Ok, va bene, allora a posto. Popeye, Olivia, Poldo che mangiava sempre gli hamburger, era il mio allora, però attenzione, questa è una cosa sempre di costume importante per l'Italia, che voi si vi ricordate e dovete ricordarvelo, Poldo mangiava i panini con l'hamburger, ma come venivano polpette. Esatto, come venivano doppiati in italiano, il panino con le polpette, lui mangiava con le polpette. È vero. Che poi in Italia tantissimi bar eccetera usavano lì il, ovviamente senza pagarne i diritti, l'immagine di Poldo da mettere nel... Io mi ricordo al mare c'era un bar e c'era Poldo fuori che mangiava il panino, perché voleva andare lì a mangiare i panini praticamente. Questa era un'usanza abbastanza... Non so se ve lo dico, se è capitato anche voi, c'erano tantissimi locali che usavano le immagini senza diritti all'epoca e mettevano... Ancora adesso... No, beh, adesso penso sia un po' più regolare, almeno su quelli famosi, almeno, però. Beh, a Monterotondo c'è un diciamo un ristorante, tra virgolette, che fa pollo fritto, che utilizza dei marchi, tra l'altro, registrati a Sony. Senza colpo ferire, io l'ho detto più di una volta pubblicamente, questa cosa non mi capacito come possa essere possibile. Però è anche vero che ho visto anche pizzerie con la scritta Monkey Island sopra, cioè, voglio dire, da sto punto di vista ne possiamo trovare tanti altri. Braccobaldo, chi se ricorda Braccobaldo? Ma Braccobaldo, Braccobaldo era un contenitore, lui, esatto, come ha detto Davide, era Braccobaldo Show, e dentro c'erano tanti cartoni con tanti personaggi, non c'era solo Braccobaldo, era Braccobaldo Show e dentro raggruppava. Sì, sì, è il cane Braccobaldo. Braccobaldo era quello che parlava bolognese, che cantava Mia cara Clementina. Sì, esatto. Dentro c'era, mi ricordo, il cartone della Puzzola che si innamorava degli altri. Ah, sì, la bello. Puzzola era grandioso. Sì, sì, sì, sì. Che il gatto, la gatta non la voleva. C'era la gatta che gli capitava di, non so, cadeva la vernice, gli si formava la striscia addosso. Allora questa puzzola si pensava che era una puzzola, parlava francese. Sì, sì, la puzzola parlava francese. Sì, la inseguiva. Questo era Anna e Barbera, se ricordo bene. Anna e Barbera. E poi c'era Woody Woodpecker. Il Woody Woodpecker, ma c'erano Anne Barbera, sono tantissimi. Vi ricordate Pixie e Dixie? Pixie e Dixie. E Jinxie, sì. Erano tre. Pixie e Dixie, sì, esatto. Giusto, sì. Mi ricordo, ma non sono quelli che mi ricordo di più. Anne Barbera e un gatto. Mi ricordo Yogi e Bubu. Yogi e Bubu, Svicolone. Ranger. No, allora era Svicolone, mi sa, quello che parlava romagnolo là. Sì, sì, sì. Svicolone, sì. Era un puma rosa. La puma rosa, sì, che sì, parlava, sì, romagnolo. Sì, sì, sì. No, Yogi e Bubu era. Sta arrivando Renzo Palmer, il doppiatore. Sta arrivando Yogi. Sì, sì, bellissimo. Magilla Gorilla, vabbè, quella era grande. Tutti i cartoni pre-invasione manga, questo è tutto prima del 78. Poi il 78 è arrivato Goldrake e boom, è cambiato tutto. Cioè, sono io che dice i Motogatti, Dastardly e Matley. Motogatto. No, dai, allora Dick Dastardly, dai, Dick Dastardly, sì, Penelope Pistop. Penelope Pistop, sì, sì, assolutamente. Fatto anche invece, per tornare un po' più indietro su un genere d'animazione assolutamente antico che oramai quasi non si usa più se non per grandi artisti, che era quello del passo 1 e della plastilina, c'era Mio Mao. Non vuoi ricordare Mio Mao? La la la la la, era bellissimo. Era dello studio Pagò di Milano. Mio Mao, studio Pagò. Se tu pagavi, lui lo faceva, insomma. No, Pagò, che era lo stesso di Grisù, l'inventore di Grisù. Grazie. La plastilina, cosa c'era ancora? Ce n'erano parecchi. Ce n'erano diversi all'epoca, sì. No, però a me è venuto in mente un altro cartone, non so se ve lo ricordate, Multiman, ve lo ricordate? Multiman, Aquaman. Aspetta. Questo è Mio Mao. Mio Mao. Era bellissimo. Era bellissima la sigla, cioè. Mao, la la la la la. Mio, Mao, Mio. Erano gratti di plastilina, uno azzurro e uno rosa, che si fondevano insieme facendo forme, tu c'era di tutto, sì, era un sì. po' fatto a caso, sembrava che la trama fosse casuale a seconda di come gli venivano le forme della plastilina in quel momento lì, cioè, sì, diciamo non è il passo uno più raffinato del mondo, però indubbiamente era figo, si divertivano anche loro. Adesso glielo metto qua. Era multi, e George della giungla, chi se ricorda George della giungla? Io questo non me lo ricordo, no. Non te lo ricordi? No. Bellissimo George della giungla. George della giungla era, che poi ci hanno fatto il film anche di quello di George, che se non sbaglio l'attore è quello che poi ha fatto la mummia. Come si chiamava il tizio della mummia, l'attore della... Ma George non era con i Muppet Show? No, non era quel mappe, c'era George della giungla e c'erano i Multiman, Aquaman e Coilman. Ah, adesso me li ricordo. Multiman, Aquaman, Coilman. Ma credo che nel contenitore ci fosse anche il Muppet impossibili, e Shazam. Impossibili, ecco come si chiamava. Ah, usca, che colpi di memoria che hai. Bellissimo, sì, Multiman e Aquaman. Vabbè, la formica atomica, ce n'è una valanga. A me di Aquaman mi piaceva perché lui faceva le onde telepatiche, lo ricordate, no? Che c'era sta cosa che lui a un certo punto chiamava gli animali con le onde telepatiche che uscivano dalla fronte, praticamente. Non so se voi ricordate, vabbè, comunque. No. Vabbè, poi c'erano anche i Marvel, Spider-Man dell'epoca, ve lo ricordate? Con io la Spider-Man. Sigla, sigla. Sì. Spider-Man, sì, esatto. Tu sei l'uomo ragno, Spider-Man, tu sei fra di nome. Non abbiamo citato Barba Papà, però. Vabbè, grande. Arrivava. Ma lo sapete che io di Barba Papà, aspettate però, aspetta. L'uomo ragno, Spider-Man. Spider-Man, ma guarda che animazioni, cioè, raga. Spettacolo. Ah, comunque c'era un signor lavoro, ma vabbè, comunque che stavate dicendo dopo? Barba papà, io ero innamorato. Barba papà è una produzione franco francese. Giapponese, no, perché dentro c'è sempre la toy che l'edizione è francese, infatti Barbe Papa vuol dire zucchero filato in francese. Barbe Papa. Barba Papa. Barba Papa. Io trasformare come si va. Io ero innamorato dei Barba Papà. Chi è la voce? Chi è la voce maschile, quella che parla adesso nella canzone? Vediamo chi lo sa. Bruno Lauzi. Quella... No? No. No. È Claudio Lippi. Ma dai. Claudio Lippi, sì. No, quello che parla in... Comunque io ero innamorato dei Barba Papà. Ma ero proprio innamorato, cioè stavo proprio in fissa, perché poi sta cosa che loro cambiavano forma e addirittura c'avevo un sacco di album da colorare dei Barba Papà, che ovviamente essendo colorati insomma si prestavano, no? Poi mi è ricapitato ultimamente, perché io ogni tanto lo faccio questa cosa, andare a ripescare cose che guardavo da bambino, e era proprio una puttanata, cioè nel senso ma perché era proprio... allora Barba Papà era un cartone innanzitutto per bambini, sì. No, ma era di matrice naturalista e verde, cioè era ecologista. Contro l'ecologista, assolutamente molto politicizzato dal punto di vista ecologista. Se lo francese. Guardi adesso te ne rendi conto, ma tantissimo, quindi proprio che la natura bisogna preservarla, l'inquinamento, eccetera, eccetera. E produzione francese di questi autori franco-belga, se non mi ricordo male, però questo è da controllare, non me lo ricordo esattamente. E la cosa che ho scoperto poi, che Barba Papà, il fatto che era rosa perché il nome è lo zucchero filato, che generalmente all'estero, in Italia è sempre stato più bianco che rosa, invece all'estero, soprattutto in Francia, lo zucchero filato era storicamente rosa, e quindi era questa forma, questo ammasso informe rosa era lo zucchero filato, Barba Papà in francese. Allora al 9000 ci dice Spider-Man era all'interno del Supergroup, sì, ti confermo, perché non lo ricordo anch'io, sì, in quel caso, sì, e poi dice era Moto Topo e Autogatto, ma io questi non mi ricordo. Bravissimo. Aspetta, sì, io sì, Mo me li vado a cercare. Era quello che te l'avevo detto io, No, un topo e otto gatto, sì. Comunque resta di stucco. Questo barbatrucco. Sì. Che poi i barbapapà, li avete avuti i pupazzetti gommosi di barbapapà? No, quelli no, quelli non ci ho mai avuto. Uno no. Furono prodotti dalla Fabian Plastica e fu un grandissimo successo dal punto di vista dei giocattoli e ancora adesso sono molto ricercati e se andate a guardare le quotazioni sono veramente alte, rischi di pagare 150-160 euro il barbapapà della Fabian Plastica d'epoca. Beh, io ti devo dire la verità, non me so, comunque sto vedendo Motogatto qui a Autotopo, Motogatto Autogatto. Sì, adesso vedendoli lì, però non è che c'avevo tanta simpatia, devo dire, guardavo più quell'altri de Matley, quelli insomma de e tra l'altro non so se era la Rai o erano già sulle televisioni private. Voi ricordate la storia quella del gatto, cioè quel che è arrivato, quello del quella gang dei gatti che vivevano nel vicolo, che lui si viveva... Top Cat. Quello era figo, proprio quello mi piaceva da morire. Comunque Orietta Berti ha dato la voce alle donne invece di barbapapà. Claudio Lippi aperti alle donne. Claudio Lippi, pensa che roba. E vabbè, niente, questi erano un po' alcune liste delle cose che mi ricordavo io. Poi dopo ci sono quelle che vi ricordate voi, insomma. Però ecco. Che nasce come gatto Temistocle originariamente in Italia. Me lo ricordo Temistocle. E lui. E c'era l'agente di polizia Charlie Dibble. Sì, vabbè, poi c'erano anche i cartoni dei Peanuts, Snoopy, i Peanuts. Sì, giusto, è vero. Un po' più avanti questi, mi sa, però. Sì, beh, ma più o meno l'epoca era. Beh, c'erano pure quelli là dei fumetti che stavano nel Corrierino. Il Corrierino dei piccoli, tipo, che ne so, la Pimpa, quelle cose lì, non so se la Pimpa che è stato cavandoli a portare in TV. Esatto, della linea. E non so se ha fatto bene. Vabbè, io vedo che nell'elenco ci siamo dimenticati di Flipper, che comunque non era un cartone animato, credo. Cos'è Flipper? Il delfino. Sì. Era un telefono. No, quello è recente, dai. No, sì. Quello che dici tu è un remake ma c'era anche negli anni 70. Sì, sì. Ah, non l'ho mai visto io. Sì, no, ma era tipo Lessi, era in bianco e nero, sembrava una razza Lessi, Zorro. Ho dei barlumi di ricordo, però ti devo dire, forse non l'ho mai visto. Ah, Orzo Way. Ci siamo dimenticati di Orzo Way. No, grande, sì, è vero. Ma io mi ricordo anche il la serie televisiva in bianco e nero degli Oliver Onion, sì, e poi Sandokan di Calgary, che era per i bambini, per i ragazzi. Comunque, oddio, Sandokan, il Muppet Show. Oddio, insomma, vabbè, il Muppet Show, quello alzo le mani perché lì stiamo parlando del capolavoro dei capolavori. Che purtroppo non si capisce come mai in Italia è durato così poco. In America è andato avanti 40 anni, da noi a un certo punto ha avuto un successo della Madonna sulla Rai, Muppet Show lo guardavano tutti, a un certo punto l'hanno interrotto, fine, mai più fatto Muppet Show in Italia, perché non si sa, non l'ho mai capito. Perché forse a un certo punto non piaceva più, io so, ma problemi dei diritti, vallo a sapere, sai, cose, i prodotti televisivi è sempre un po' strano. Però la serie televisiva in bianco e nero di Tarzan, ve la ricordate? Certo, sì. E c'era anche la presa in giro che faceva Vianello, te lo ricordi? Come no? Raimondo Vianello faceva la presa in giro che faceva così tardile. Batman e Robin. Vabbè, Batman e Robin, lì stiamo parlando di cult sì, movie ormai. Sì, però cioè, lì già, io quelle già erano TV private, non è più la TV dei ragazzi. Però la cosa bella, però una cosa sola, scusa, finisco, dico solo questa cosa, poi dopo potete andare a fare roba da libera, perché io tanto non c'ho praticamente più niente da dire se non qualche barlume che mi può venire in mente lì per lì. Però una cosa bella è che, se vi ricordate, la televisione in generale negli anni 70, anche inizi anni 80, dava molto spazio ai bambini rispetto a, cioè, non dava molto spazio, dava lo spazio ai bambini. Oggi è tutto un po' più mischiato. Però, se vi ricordate, anche i programmi della domenica, tipo Domenica In, ce l'aveva comunque il segmento che era dedicato ai più piccoli, cosa che poi è andata sparendo nel tempo. Ma se c'era una cosa che io cantavo sempre, mi ricordo sta cosa qui. Vediamo se è questa qui, se è giusta. Sì, dovrebbe essere giusta. E penso che dorme la vecchia regina senza benzina, guarda com'è giù, sogna i suoi 100 cavalli che non ci sono più. Isotta. Con le braccia, stop, 5 tratte, sui sedili davanti due polli ruspanti, sul tetto una coppia di gru. Che bella compagnia, due ranocchi, batteria, hanno appena imparato a rimetterle in moto e le gru la ritirano su. E vabbè, questa Isotta, poi c'è il ritornello. Isotta, dai che ce la fai, Isotta. Dai che ce la fai. Dai che ce la fai. Metti la marcia e vai. Vabbè. Questo rientra un po' in delle canzoni per bambini, che è un po' un qualcosa che si è un po' perso, devo dire. Ed era legato poi allo Zecchino d'Oro, anche, se vogliamo, con tutte le esattamente. Canzoni. Erano queste canzoni per i bambini di cui Pippo Franco allora animazione di Feno, Stefano Fenuccio ovviamente per lo studio LEAD, musica di Pippo Baudo e Pippo Caruso, ragazzi, testo di Sergio Bardotti, che non so chi sia, però insomma, oh, Pippo Baudo, ragazzi, cioè. Pippo Baudo, cioè, prende ancora soldi da questa roba di royalty, si ha, pensa. Vabbè, ce n'erano tante, vabbè, 44 gatti. Volevo ricordare una cosa che abbiamo visto sicuramente tutti, che mi è sfuggito, che parlo di comiche. Le comiche erano comunque una roba che vedevamo, anche perché erano roba oggi molto vecchia, le comiche molto, Angelo e Comi, erano, esatto, Stalio Olio, Buster Keaton, Ridolini, sì, no? Madonna, in Italia Ridolini. Sta cosa è ridicola, cioè. Ridolini. No, le comiche, io a me sono, piacevano un casino all'epoca, io ho un bel ricordo delle comiche, oggi vedendole mi piacevano, vabbè. Alcune cose che ho rivisto recentemente di Stallio Olio erano geniali, perché ho visto non tutto, ma alcune cose fanno ancora ridere tantissimo adesso. Non so se ve la ricordate, quell'episodio, quel film, che poi noi erano film per il cinema, che ci propinavano come le comiche in televisione. Anche qua era produzione cinematografica vecchia che veniva riciclata nella TV. Sì, certo. Quel film di Stallio Olio, dove loro andavano nel coso delle torture medievali e a un certo punto tiravano olio tantissimo e lui diventava altissimo. Ve lo ricordate quello? Sì. Che vabbè, ce n'erano, c'erano tanti. Diversi, quello della Legione Straniera, c'era un sacco. Legione Straniera, sì. Comunque, se vi capita, guardate il film, perché è veramente bello, cioè, nel senso, veramente poetico, quello, a un certo punto. Quello della storia, sì, di loro due, sì. Ma è anche un film, secondo me, anche abbastanza credibile, tutto sommato. E poi la ricostruzione dei personaggi è straordinaria, cioè veramente grandiosa. Loro e ti sembra di vedere Stallio Olio, incredibile, cioè, quelli come noi si sono cresciuti con Stallio Olio in particolare, però vabbè, insomma. Boh, ragazzi, voi in Italia ricordiamo la voce di Cozzo, che faceva Olio, Alberto Sordi. In realtà guarda il problema di Stallio Olio in generale, Stallio Olio ci hanno avuto almeno 5 o 6 coppie di doppiatori diversi, anche se non sembra, nessuno, forse pochi se ne sono accorti. Però stavo leggendo proprio un sacco di tempo fa, perché volevo fare uno speciale, mi sono molto documentato, e c'è stato un problema in generale sulle licenze, a parte ovviamente chi si all'inizio, quando doppiavano Stallio Olio, magari non pensavano che la cosa diventasse un fenomeno, e quindi magari all'inizio davano a dei doppiatori così, poi dopo piano piano c'è stata la questione di Alberto Sordi, quindi la personalizzazione, ma all'inizio non erano doppiati, la sai la storia di come mai parlano così, no? Non lo sapevi? Me la stavo per leggere, però la cosa che mi ha colto l'attenzione era il fatto che comunque ci sono stati una marea di problemi sulle licenze di doppiaggio, perché i diritti in Italia di Stallio Olio sono passati da Zi Peppe a Zi Peppone in continuazione, cioè ci hanno avuto diversi passaggi di diritti di sfruttamento, e questa cosa però poi ha causato spesso e volentieri anche dei ridoppiaggi delle opere che erano già state doppiate. Quindi in Italia trovare le opere originali doppiate non è così semplice come possa sembrare, a meno che non si hanno gli originali, praticamente, perché pare che insomma queste cose siano state variamente ridoppiate. Vai. No, questo sicuramente da quando sono stati doppiati, ma in realtà Stanlio e Hollywood, essendo stati pionieri del cinema muto, sì. Dal muto, sono stati pionieri del cinema invece con l'audio, che fu la famosa causa per cui poi Chaplin venne dimenticato, perché lui non riuscì a passare al cinema con l'audio, al contrario invece di Stanlio e Hollywood, che fecero il passaggio. Loro all'inizio, per le produzioni internazionali, non esisteva il concetto di doppiaggio, quindi Stanlio e Hollywood cosa facevano? Facevano il film e rigiravano le stesse scene parlando ogni volta nella lingua per la quale dovevano fare il film della nazione che era dedicato. Quindi un film, la scena, la giravano tipo 5 volte, una volta in inglese, una volta in francese, una volta in spagnolo, una volta in italiano, una volta in tedesco. Ma ovviamente loro due, gli attori, non è che sapessero le lingue, quindi gli davano delle scritte che loro dovevano parlare in italiano. È per questo che Stanlio e Hollywood parlano stupido così, no? Perché quando arrivarono le prime volte erano proprio loro, gli attori originali, che parlavano in italiano, che recitavano in italiano, sbagliando ovviamente tutti gli accenti e tutte le... Questo li ha caratterizzati così tanto che quando poi hanno inventato il doppiaggio, li hanno dovuti doppiare, i doppiatori hanno dovuto mantenere, perché ormai erano famosi così, hanno dovuto mantenere questo accento finto italiano sbagliato inglese praticamente. Beh, sicuramente è così, perché è molto verosimile. In realtà si faceva proprio questa cosa quando si localizzavano le cose più semplici, quindi alla fine si faceva questo lavoro qui in tante lingue. Ma se ci avete fatto caso, questo noi pensavamo che era un problema nostro, però poi in realtà storicamente è una cosa che nel cinema si è sviluppato per tantissimi paesi. Alcune sequenze di alcuni film hanno praticamente la traduzione anche dei testi, tipo se c'era un cartellone, se c'era una lettera, se c'erano delle scritte comunque sulla scena, venivano anche quelle, venivano tradotte, quindi sì, spostavano i props praticamente. E questa cosa noi pensavamo che... E in realtà mi pare che l'ultimo film di Tarantino, no, forse non ricordo quale, però recentemente, tipo 2 o 3 anni fa, ho visto un film, infatti con Michela mi sono domandato, ma qual è il senso di sta cosa? In realtà il senso è citazionistico, perché in realtà una volta si faceva sta cosa, capito? Io oggi chiaramente non c'ha più senso, e se lo fai per un vezzo, no? Chiaramente, cioè nel senso, vai, scusa. Molti film di animazione Disney, tanto l'italiano, tutto quello che c'è, tutto. Cenerentola, da Cenerentola in poi. Cenerentola aveva l'incisione della scritta Cenerentola sul letto, incisione dei nomi dei 7 nani sulle sedie, che erano tradotte nelle varie lingue di destinazione del film. Quindi esiste un Cenerentola per l'Italia, un Cenerentola per l'America, uno per la Spagna, uno per la Germania, uno per eccetera eccetera. 100.000 paesi che hanno in Giappone. E uno per i film porno. Cenerentola e 7 nani. Esatto. Andy Casanova, chi è? Comunque non abbiamo citato, e secondo me non si può non fare, il mitico cartone animato della Pantera Rosa. Hai ragionissimo. E qui c'è una particolarità, però è derivativo, il cartone animato è derivato, esatto. Sì, è derivato, sì. E deriva dal primo lungometraggio che aveva fatto Blake Edwards della Pantera Rosa, esattamente. Ha avuto un successo tale che decisero appunto di fare la serie, che è eccezionale. Era la sigla del film, che era cartoni animati, è diventato poi, ha avuto talmente successo solo la sigla, che poi è diventato, e probabilmente del primo è più bella la sigla del primo. No, vabbè, il primo è un capolavoro tutto, ragazzi, stiamo parlando di veramente un film, e ovviamente Henry Mancini con questa è Harry Mancini. Questa è pure musica con i controcoglioni, cioè nel senso... La Pantera Rosa, il primo film di Black Edwards, credo che è uno di quei momenti magici dove si incontrano tutta una serie di persone geniali, bravissime, tutte insieme, e esce fuori una cosa che è un capolavoro indimenticabile, perché dalla regia agli attori a Mancini, che ha fatto la musica, musica, al disegnatore che ha inventato tutto era al massimo livello, era veramente incredibile. Beh, io qua citerei anche anche se non c'entra niente, i film dell'ispettore Clouseau che... è lui, però l'hanno completamente reinventato. Ci sono alcuni episodi della Pantera Rosa che veramente sono eccezionali, quello quando vuole dormire e la sveglia a cucù, lo vuole svegliare a tutti i costi, non so se ve lo ricordate. Beh, io avevo quello, in realtà era un episodio di Paperino con la goccia d'acqua, ve la ricordate? Quello di quando lui vuole dormire, sì, la goccia d'acqua, con gli occhi che si crepano. Esatto, troppo bello, gialli crepati, lui, con la lingua che tiene la goccia. Lui va a comprare questa, perché arriva sempre tardi in ufficio, va a comprare questa sveglia cucù che è garantita che lo sveglierà per forza, e allora tutte le mattine lui cerca di uccidere il canarino, e il canarino fa di tutto per... Io avevo un episodio del cartone in 8 mm in pellicola, che era praticamente lui che dipingeva tutta la casa di rosa, e arrivava il tizio e ridipingeva tutta di verde scuro, e quindi praticamente loro si inseguivano. Quell'omino piccolino, esatto, che prendeva sempre le botte. Bravo, esatto. The Little Man si chiama. Ah, mi è venuto in mente un altro assolutamente da ricordare, Mr. Magoo. Lo sapevo, lo stavo per dire io. Non so quanto questa roba sia attinente con la TV dei ragazzi, però Mr. Magoo è meraviglioso. Ci hanno fatto anche un film recentemente. Sì. Anche recentemente, 15 anni fa forse. Anche 20. Sì, ma niente da a che vedere con... No. Ma lì era anche l'idea originale di una cosa che tra l'altro durava poco, e cioè nel senso erano tutti piccoli episodi, no? Quindi alla fine comunque era anche piacevole da vedere, no? Però Mr. Magoo era figo perché in realtà si prestava a qualsiasi tipo di situazione assurda, no? Lui parlava con l'appendiabiti, perché comunque per lui era una persona, quindi cioè nel senso noi ricordiamo, lui è questo vecchietto cieco. O perlomeno praticamente cieco, quindi super ipovedente, che scambiava i semafori per persone e via dicendo, insomma, quindi, oppure le persone per appendiabili, c'erano tutte queste situazioni assurde di lui che non si rendeva minimamente conto di quello che succedeva intorno a lui. Un po' credo Filini di Fantozzi sia stato ispirato un po', esatto, la figura, sì, da Mr. Magoo, secondo in effetti, me direi di sì. Sì. Comunque era diventato addirittura di uso comune, come chiamare quelli un po' ceccati. Oh, Magoo. Sì, sì, è vero. Sei Mr. Magoo. Era così, vabbè, dai. Comunque, grandissimi film, quelli con Peter Sellers, sì, infatti io li adoro tantissimo, cioè devo dire la verità. Ciao Andrew, benvenuto. No, eccezionale. Antenati pronipoti, anche lì, Anna e Barbera, anche loro. Anna e Barbera. Sì, sempre Anna e Barbera, vabbè. I Flintstones e i Jetsons, ovviamente, quelli sono durati. Flintstone, mitici, chiaramente. Dino che arrivava. Questo è iconico, questo è assolutamente iconico. Yabba Dabba Doo, cioè è un'icona intramontabile della storia del cinema e dell'animazione. E poi almeno, per quanto mi riguarda, i Flintstones sono quelli che mi hanno fatto conoscere la vita americana, cioè come vivevano, vero, gli vero. Statunitensi, cioè le loro abitudini, le cose, bullying. Vedevi quello che loro facevano e capivi come funzionava la vita negli Stati Uniti. Cioè era una sorta di appendice a cosa? A come cazzo si chiama il telefilm? Quello con Fonzi, Happy Days. Era una sorta di appendice che erano i due elementi che ci hanno raccontato un mondo che era lontano da noi, veramente lontano. Oggi voglio dire, cioè, nel senso, lo conosciamo molto meglio, e alcune cose sono entrate anche a far parte del nostro uso, però in generale, voglio dire, allora era totalmente diverso, cioè un mondo completamente diverso. Se non sbaglio, la loggia del giaguaro c'è sia nei Flintstones che in Happy Days, se non ricordo male, quel club dove si mettono in testa il cappello. Ah sì, bravo, sì, bravo. Ma secondo me era Cuba, club privato, secondo me qualche connessione in qualche maniera c'è, probabile, stato. Ma c'erano sti club tipo il Lion Club, che esiste per davvero? Negli Stati Uniti e nel resto del mondo la massoneria non ha la stessa nomea catastrofica che ha in Italia. Ma in realtà neanche, neanche in Italia ce l'avrebbe avuta. In Italia ce l'ha perché ce l'ha Loggia P2. Insomma, dire. E non solo. Cioè. Però comunque ma all'estero vai. È normale, voglio dire. Sì, vabbè, anche dai. Se quello lì proprio, cioè nel senso, non arriverei al concetto di massoneria, che è un concetto molto più articolato e profondo, insomma, diciamo, da quel punto di vista è proprio un modo loro di identificazione, no? C'hanno questi clan, chiamiamoli così, insomma, no? Che alla fine comunque si identificano e si mettono il cappellone in testa e sono contenti. Però al di là di questo, insomma, comunque questi cartoni animati che erano comunque divertenti, e come dice anche dal punto di vista dell'alimentazione, no? Cioè nel senso di quello che mangiavano, le abitudini che facevano, il tipo di rapporto, anche la donna casalinga, cioè erano proprio gli anni 50 in America, cioè forse anche anni il vicinato, e poi il suo vicino di casa era il suo miglior amico, Barney. Esatto, sì, facevano tutti i colori. Io comunque ho visto, giusto per tenermi un po' aggiornato sulla situazione, mi sono visto qualche episodio della TV dei ragazzi dell'epoca, e non solo facevano vedere cartoni animati, cose simpatiche per i bambini, ma facevano anche, ho visto in un paio di occasioni, episodi di educazione civica, facevano vedere i segnali stradali, come bisognava andare in giro con la bicicletta, mettere la mano, girare a destra, a sinistra. Improbabile, perché facevano, come dicevo, la televisione c'aveva una funzione pedagogica alla fine. Comunque. Anche documentari. Esatto, documentari, comunque spiegavano come muoversi in città, come bisognava andare a scuola, bisognava mettersi il grembiule, la cartella alle spalle, mettere la droga, compra la droga. Il grembiule, chi è? Il grembiule l'abbiamo usato tutti. Tutti, sì. La voglia. Io sono ancora favorevole, figurati. Non... arrivato. Ma guarda, allora, aspetta. Io sono favorevole. Fermi tutti. Questo è un discorso, non ne parliamo. Però diciamo una cosa, cioè non è il grembiule in sé, perché anche le scuole britanniche, comunque quelle anglosassone, hanno tutti la divisa. Ma il problema del grembiule era quel cazzo di fiocco ridicolo, cioè andare in giro vestito da pagliaccio praticamente, cioè nel senso era una cosa che poi te si smontava subito, e l'insegnante e la maestra veniva perché te strillava perché non c'avevi il fiocco. Ma vaffanculo del fiocco. Tutte le mie foto delle elementari, io il fiocco era distrutto, il non esisteva più. Ma è normale, era normale, era una cosa. Portavano negli anni 70 quello che erano le abitudini negli anni 50. Cioè, noi abbiamo fatto fatica a uscire da sti meccanismi. Cioè, nel senso. Comunque, vabbè, dai, questo mo non c'entra niente, pure questo che. Abbiamo la puntata sui fiocchi. No. Sì, poi non era il problema, non era il grembiule, era quello che avevi sotto il grembiule, perché poi sotto il grembiule c'era la differenza, no? Dei bambini, quelli che andavano in pantaloncini corti d'inverno col grembiule sopra e quelli che invece si vestivano pesante, insomma. Vabbè, dai, vabbè. Ridiamo. Sì, per non piangere. Infatti, perché dobbiamo piangere? Siamo qui per ricordare una cosa bellissima, era quella della TV dei ragazzi. Tra l'altro, Domenico ha messo un link in chat che non so quando sia regolare, però io intanto ho catturato, insomma, poi vediamo. Sì. Ma voi vi ricordate? Madonna! Il grembiule, Davide sempre lui. Questi sono i miei fratelli e la mia scuola. C'hai tutta la documentazione online. Io non c'ho più niente di sta roba. Io prima di trovare la mia foto delle elementari, buonanotte, cioè. Io c'ho anche le pagelle. Volete vedere una roba spettacolare? No, non ci frega vedere al volo. Non ci frega niente, stai buono. Ma perché no. Condividi tutte queste informazioni personali con la gente? Ah no, adesso c'è scritto 6, però si scriveva sex quando si scriveva 6, al posto che 6 si scriveva sex. Ah, guardate, se volete la prossima volta vi racconto un aneddoto simpatico di una volta una ragazza che, anzi lo racconto subito, non c'entra niente, però molto veloce. Quando io avevo la ludoteca, quella struttura, insomma, che molti non credono che io ho avuto, perché dicevano come può essere che tu hai lavorato con i bambini, e quando venne una volta una ragazza col curriculum per il posto di lavoro, perché noi facevamo anche l'happy nursery la mattina per i bambini ai 18 ai 36 mesi, questa ragazza venne col curriculum e col diploma. E su sto diploma c'era sta pagella di una scuola romana, insomma anche abbastanza riconosciuta, una magistrale, che però aveva ancora le pagelle del dopoguerra, E tra le varie materie, oltre a varie, insomma, c'era lavori donneschi. E questa c'aveva sei a lavori donneschi. Io ho detto, cioè, ma io non ci voglio credere che esiste sta roba. Cioè, questa a scuola così era, è una cosa incredibile. Lavori donneschi, lavori donneschi, ragazzi. Non ci sai, che ne so, economia domestica, oppure no, lavori donneschi. Cioè, quindi erano proprio lavori per le donne, quelli zitta donna. Vabbè. Comunque mia moglie è venuta a ricordarmi che scrivevano sex perché sei si poteva modificare in set facilmente. E allora, la falsificazione, esatto, diventava un set e allora hanno fatto sto sex. Vabbè. Che però era l'inglese non si conosceva, quindi stiamo parlando di un'epoca in cui l'inglese era qualcosa di assolutamente, esatto, detto oggi però sex dice che okay, c'ha un bel voto sessuale, sex sessuava un po' così sex adesso. Che vede il sex qua, bravo e vabbè ragazzi, vabbè, avete altro da dire? Io, perché comunque a me la cosa che mi premeva, già parlato, la cosa che mi premeva molto era raccontare un po' anche un po' la televisione per come la vedevamo noi e per come era realmente, che insomma era veramente un mondo completamente lontano da noi, che aveva un inizio e una fine. E era meglio quando si stava peggio. No, ma non è, io non faccio mai questi di merito, assolutamente. Non ha senso. Dico semplicemente com'era. Cioè, quando raccontiamo le cose per quelle che erano, insomma. Ogni epoca ha le sue cose. Esatto, quindi. Infatti non so perché ha voluto fare sta battuta. Vedo che impara. Perché di solito è quella che fanno gli altri, io invece dico sempre quello che state dicendo voi, vedo che avete imparato bene, bravi. Vabbè, adesso possiamo andare tranquillamente. Io lo difendo pure quando vedi, io lo difendo. Ma tu lo devi mandare a fanculo, capito? Cioè, se tu lo mandi a fanculo è più semplice. Comunque, dai ragazzi, non so se avete altro da aggiungere. Facciamo qualche anticipazione delle prossime puntate, così si preparano. Mo ci arrivavo. No, dicevo prima, avete altro da, perché sennò chiudiamo qua la puntata. Io penso, sai, per me. Io, sì, sì. Abbiamo parlato però, di Ten Ten, che era il cartone animato. E Ricky Rich, voi ricordate Ricky Rich? Ragazzino. Sì, sì. Però io Ten Ten è francese, quindi io dei francesi. Te stava sui coglioni, è vero, ma io l'ho saputo dopo. Ten Ten e Milou. No, io se devo parlare dei francesi, parlo di Asterix allora. Asterix e i film di Asterix, che erano il classico di Natale. Tu a Natale c'avevi i film di Asterix. I filmoni di Asterix, quelli, vabbè. Scusa, Roberto, dicevi? No, a me invece Ten Ten è sempre piaciuto tanto. Tra l'altro, un attimo, non è francese, è belga. Belgo, forse sì. Sì. Vabbè. No, credimi. Io più sono qui, più ti dico che il Belgio non è né francese né le Fiandre sono olandesi. È un errore semplificare. Comunque a me piaceva molto. A me piaceva, infatti, Ten Ten, devo dire la verità. Il Belgio, ma... mi ricordo i Puffi. I Puffi arrivavano dal Belgio, no? Schwurft. Non lo so. Saputo anch'io sta cosa. Sì, pensa che c'ha ragione. Peio belga, i Puffi sono belga. Bene, allora ragazzi, i Puffi, bellissima roba che abbiamo visto. Io vi suggerisco sempre a tutti, ragazzi, cercate ogni tanto su YouTube, veramente se ne trova di roba, anche solo per la curiosità di vedere, non perché, come dicevamo, non è una questione di merito, è una questione di curiosità, di esplorazione, di un qualcosa che era comunque diverso, e vedete anche magari come si è evoluto, e a volte vedete anche da che cosa derivano tante altre cose, no? Perché è sempre un processo evolutivo di tutto quanto. Detto questo, prima di salutarvi, ovviamente, ecco, cerchiamo di, alla prossima puntata tocca a chi tocca? Roberto? A chi, no, Roberto ha fatto. No, c'è Carlo. C'è Carlo. Carlo, di che si parla la prossima settimana? Di sigle. Puntatona musicale. Quindi uguale a oggi, sigle, insomma, sigle. La stessa cosa. No, peggio, molto peggio. Molto peggio. Ok. Allora, comincio a fare l'elenco perché se devo uscire e di colonne sonore. Sonore, perfetto. Sonore. Quindi preparati perché ti manderò tipo 500 sì, MP3 poi. Magari non nello stesso giorno, no? Nel senso, mandamelo. Comincio a mandare già da adesso, così mi organizzo. E io, se mi permetti, io voglio anticipare perché vorrei lanciare un sondaggio, quindi magari anticipo anche quella che farò io dopo. Ersordaggio, va bene, vai. Ersordaggio. E quindi noi lanceremo una grandissima sfida fra Yoda e il maestro Miyagi su chi è il maestro migliore, e parleremo appunto Yoda 100-0, dai. Perché che sfida è? Non c'è Yoda, ha già vinto. Non importa. Lo pensavo anch'io, invece ho visto che nel sondaggio Miyagi qualche pezza l'ha presa, insomma. Quindi cominciate a prepararvi perché sarà una sfida all'ultimo sangue fra i due, poi cercheremo di allargare un po' ad altri personaggi. Bene, Davide invece di che cosa parlerà in un prossimo episodio? Devo ancora pensarci, okay, in realtà non ho il momento ancora deciso. Perfetto. Allora, hai controllato Davide? No, non ancora. Io invece ve l'ho già detto che la mia prossima puntata parleremo del mondo dell'8 mm, del Super 8, delle cineprese, dei proiettori di diapositive, e delle moviole, di tutto quell'annessi e connessi con cui si fanno le stesse cose che si fanno oggi, solo che in maniera più costosa e più complicata. ma secondo te a mia figlia se gli dico vai con la moviola, lei capisce? Secondo te? Beh, no, infatti lo spiegherò. No, la moviola, no, forse moviola loro capiscono il rallentatore. Cioè oggi la moviola, secondo me neanche più quello. Sì, fai un test, tu prendi il telefono. Tu prendi il telefono, metti la registrazione e gli dici moviola, così secco. papà, cosa cazzo vuoi? Va bene, detto questo, invece vi ricordo domani sera vi ricordo una puntata live di Ludico Forum. Torniamo a parlare di argomenti generici del mondo del videogioco, molte notizie, molte informazioni, ma non una puntata specifica, ma con le puntate specifiche che avevamo progettato piano piano torneremo, perché in realtà erano temi abbastanza complicati e bisognava prepararci, soprattutto quello del press fire to kill, che giustamente Carlo mi dice però io mi devo preparare se dobbiamo fare sta cosa, quindi quella la faremo fra qualche settimana, insomma, con molta calma. Mentre sabato sera vi ricordo che c'è Runtime by Night alle 23:30 e domenica sera alle 21 io e Roberto Domaiuolo faremo questa puntata di anteprima di Delenda Cartago, che l'hanno fatto apposta per farmi venire l'ictus, che da domani si chiamerà AO, ok? Quindi meraviglioso programma AO, esatto, benissimo. Mentre che noi torniamo la prossima settimana di giovedì sera sempre alle 21:30 e vi ricordo che c'è la puntata di Archeologia videoludica venerdì prossimo alle 21:30 e poi Davide invece che novità hai? Nuovi video in uscita, il podcast mi pare che è andato in pausa, no? Giusto? Sì, esatto, podcast un attimo in pausa, comunque qualcosa arriverà in questo momento di pausa, qualche speciale, qualcosa lo organizzerò. Perfetto. No, sto dedicandomi un po' al video e anche un po' al riposo, che sono un attimino in fase di cottura, ma giustamente deve dormire alle 4. Cioè, allora, Davide è la persona che io non riesco a capacitarmi, la produzione che ha di contenuti è una cosa. Non credo che un umano normale sia capace di produrre. Ma anche con una certa velocità, tutto sommato, perché comunque quello che lui, altro che velocità, quello che costruisce, lo costruisce in maniera anche articolata, non è che lo fa semplice come faccio io, accendo il microfono, dico due cazzate e poi è finita lì. Comunque andate a vedere il canale, cioè trovate dei video che dici ma io per fare una cosa qui col montaggio ci metto una settimana e lui ne fa 12 in una settimana. Infatti Carlo nel pensare che ci vuole una settimana non lo fa proprio, quindi evita il problema alla radice direttamente. Va rallenti come era la moviola. Esatto. È vero, io lo faccio ma con i tempi giusti, esatto, se ci vuole. Hai ragione. Davide 3-4 anni. Domenico dice il tema per Davide è la fantascienza in TV, mentre Melanie dice che anche per lei la moviola è sinonimo di rallentatore. Probabilmente Davide Gatti non dorme mai, in realtà dorme Davide Gatti, ma quando lavora dorme anche quando dorme. Esatto, oggi esatto. Lo dico di nascosto perché se qualcuno dei miei datori di lavoro mi sente, ma no, meglio non dirlo. Bravo, non lo dico, infatti. Bene, c'è la voce attese. Ringrazio e saluto Carlo Sant'Agostino, ringrazio e saluto Davide Gatti, ringrazio e saluto Roberto Domaiuolo. Ci vediamo la prossima settimana, sempre giovedì 21:30 qui su runtimeradio.it, e domani esce il podcast. Commentate, perché è inutile che mi mandate i messaggi a me privati. Fateci sapere che cosa pensate di questa trasmissione, che so che sta piacendo moltissimo e mi fa veramente piacere. Comunque, visto che non l'ha trovato Davide, confermo: Jordi La Force, interpretato da LeVar Burton, era Kunta Kinte in Radici. È lui. Fine. Okay, no, va bene. Io ci credevo pure prima, senza che. Infatti. Però questo non ti esenta da fare quello che devi per lo specialone che dobbiamo fare. Che non. Hai ragione. Però permettimi, forse Radici quello moderno, non Radici quello che mi ricordo io. No, Radici del 1977. Ma non può essere, cioè. Ma controlla, che te devo dire, controlla. Vabbè, ma non può essere, cioè, che cazzo che vabbè, comunque ciao, buonanotte a tutti. Ciao. Ancora più saldi a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. Non lasciarti scappare gli extra sconti sui prezzi outlet dei fashion brand più amati e vivi tutte le emozioni di un'estate di shopping. Vieni a trovarci, MacArthur Glen, Destination Joy, e scopri Art Safari, un'invasione di animali colorati che farà divertire grandi e piccini.